facile camminare se c'è molta neve, invece sembra che non attacca, di conseguenza va bene così, dai. È fatto bene, è fatto giù. Guarda, sta vicino al mare, questa mattina ero per lavoro con mio figlio, sono franco, pranzato su Lulas, ma c'era un freddo, non c'era un freddo, e tutte le mie ossa, tutte le ossa, sono rientrato e ho detto, stasera me ne vado via anche io prima, perché mi ho preso abbastanza freddo, quindi è fatto bene giù. Ok, chi c'è? Massimiliano, ci riprendi? Sì, positivo, dai. Volevo sentire Domenico dove l'aveva. Avanti, Domenico. Ho paura che Domenico non ti ascolti. Attento, Domenico. Sì, infatti, Mario, io Domenico l'ho rilanciato, ma mi sa che non mi ascolta lui e non lo ascolto io. Attento, Domenico, sicuramente è in zona d'ombra. Attento, Domenico. Non risponde. Ecco. Avanti. Buonasera a tutti, a tutta la ruota da parte di Giuseppe. Buonasera Massimiliano, Domenico, Mario, Salvatore e Giulio. Avanti Mario. Ciao Domenico, Giuseppe, l'hai sentito e ben rientrato. Avrai trovato sicuramente un po' di neve. Perché è venuto uno a farci una consegna all'ambasciata e hanno detto che a Campera c'è un bel di neve. Gappa gappa, riprendi Giuseppe e poi prendi da dentro anche voi. E cappa Mario, oggi era una giornata critica lì, eh. Sì, al ritorno neve. E anche stamattina alle 8:30 a Nuoro, quando stavo scaricando, stava nevicando. Non ti dico il freddo, guarda, per l'amor di Dio c'era da pisarsene sotto, dai. Comunque, nonostante tutto è andata bene, dai. Sono riuscito a rientrare tranquillo lì, Campeda e Bonorva lo stesso, era bianco, però dai, e pio pio in questi casi e si tira avanti lo stesso, dai. E avanti Salvatore. Cappa, salutami, buonasera Giuseppe, ben sentito. Sì, lo stavo dicendo anche io stasera, io non ne avevo trovato su Atempio, sul lavoro fra Atempio, fra Lulas e Calangiato, neve non ce l'ha, si vedeva un po' imbiancato su Monte Limbara, ma sulla strada neve niente, ma in compenso freddo Giuseppe, guarda, mai lì, c'avevi più di un ghiacciolo, guarda. Cappa, guarda Salvatore, ti posso credere perché io quando stavo scaricando con i guanti in pelle mi bruciavano le mani dentro dal freddo. Mamma mia, guarda, ma veramente oggi è una giornata più fredda che ho sentito. In quella zona c'è sembra che non ci sia tutto l'anno. Va bene, riprendiamo, facciamo girare. Ma chi c'è? Franchetto, ci sei? Ho ripreso. Ecco, bene, ciao Gianni, mi è rientrato, inizio e fai girare tu per tutti gli amici, ce ne sono tanti, quindi non c'è mai che a te. E vabbè, io rilancio tutto quanto a Mario, lui sa che è entrato, che è uscito, perché io ero un po' fuori, sono mangiato, e sono rientrato. Avanti Mario, poi facci una ritrovata. Vabbè, allora, tu ti mangiato sei tu, dollaro. E io faccio rilanciare tutto a dollaro. Ok Mario, ti ringrazio e vi devo anche lasciare perché mi avevo chiamato per la cena, dai. Stavo appunto aspettando che mi chiamassi. Ciao Gianni, salutoni e adesso purtroppo devo scendere giù a mangiare, ci sentiamo, dai. Ciao Gianni, allora ti saluto, ciao Mario, Salvatore, Massimiliano, Domenico se mi sta ascoltando e forse c'è anche Panchetto, non lo so. Io faccio girare per Massimiliano e ascolto Piranino e poi scendo giù per la cena, vai. Vai Massimiliano. Papa dai, ciao Giulio, ben ascoltato, buonasera, ce la riascoltiamo, dai. Benissimo entrato Gianni, Giuseppe Tornaro, buonasera, ben ascoltato anche a voi. Allora, rilancio Salvatore Mestrale farà girare per Giulio, dai. Buonasera, ciao Giulio, e ben ascoltato di nuovo, buonasera, ciao. Ciao Giulio, ben sentito, insomma, non è che anch'io stia andando molto in questo periodo, però fa piacere che ho usato il semplice di tanto. Ma voglio fare una prima chiamata per domenica. poco fa lo chiamava Mario, non rispondeva, vediamo un po' se, se magari è scritto la zona rombra. Attenzione Domenico, se ci sei, cattivo, prova tu Mario, magari tu sei in zona più favorevole, prova a fare tu chiamata. Va bene, ne approfittiamo per salutare a Giulio, buona carica, buon tutto e alle prossime. Attento Domenico, se ascolti qua cambio. Mario, io rilascio degli amici per i saluti e poi chiamato per Domenico, va. Lei dai, fatela, mi prendi tu e poi continui a far girare. Io saluto e glielo faccio, dai, riprendi tu, tornato. Grazie Massimiliano, dai, ciao Giulio, buona carica, buon tutto, dai, ci risentiamo presto, alle prossime, e buon inizio di giornata per domani, vai da più rum. Ehi, accappala, ciao Giulio, ben sentito, cordialità anche a te, e buon lavoro per domani, dai. Avanti di nuovo, Falchetto, se ci sei. Falchetto, non riprende, rilanciamo tutto quanto a Massimiliano, vai. E poi vediamo un po' se Domenico ci ascolta. Ma però facciamo una domanda alla chiamata Domenico, Domenico Tarzanetto, se ascolti qua, vedi un po' se tu ascolti la città di Sassari cambia. E Mario diciamo che è quello più il punto favorevole. Mario, hai sentito qualcosa? Avanti per te. Ma non ho sentito niente, né quando hai chiamato tu e neanche poc'anzi quando l'ho chiamato io. Comunque ci provo di nuovo. Avanti Domenico, se ci sei, batti un colpo. Non mi pare che Domenico è in zona Roma ancora, dai. È in zona industriale di Muros, però non so se stava facendo poi la salita di Sarcaggia o da dove stava passando. Ma comunque anche ieri ha fatto così, se vi ricordate, ieri lo stesso, da un certo punto non l'abbiamo più sentito. Probabilmente si accende la radio, perché magari non sente più nessuno, si accende la radio, la PIP, tanto per distrarsi. Probabilmente è quello. Perché anche ieri ha fatto così, se vi ricordate. Giuseppe, buonasera, come andiamo? Buonasera a te Gianni, ben sentito e cordialità. Andiamo bene, dai, finalmente siamo al Carducio, a caso. Sì, confermo quello che hai detto tu poc'anzi, anche ieri c'è stato un certo periodo di buio nelle comunicazioni con Domenico. Non so perché, credo ti dico che stamattina, cioè stamattina, stasera, nella zona di Loaghe, Saccargia, il baracchino era molto. Papà mi faceva un rumore strano, una cosa del genere si sentiva, ma solo in un certo punto, poi come sono passato lì non l'ha più fatto. Ma è positivo, anche a me porti rumori oggi, ma è proprio strana, è come... come cosa, non era il baracchino mio in barra pesante. Infatti sono stati dei momenti che lo spegnevo perché ho detto qui sta succedendo qualcosa, e sai, paura, anche un po' di paura per i finali. E ripeto, quella zona lì da Ardara in poi veramente brutta oggi. Anche se riuscite a arrivare a casa per il momento, domani mattina bisogna vedere se ghiaccia tutto o no, se no. Vai, qua è tutto pieno di neve già. Lo posso immaginare, che sia un bel arco, ma che qua è nato Natale, infatti il cortile è tutto bianco, le macchine sono tutte bianche, il cortile è attecchito. Gianni, noi non siamo abituati alla neve, noi in genere siamo abituati a inverni molto miti, hai capito? Cioè questa non è neve, neve è la fa da altre parti. Ah, infatti, neve è dove tipo Canada che devono sparare davanti alla porta perché se no riescono a aprirla, molte volte devo uscire alla finestra perché lì si ferma contro la porta e non riesco a uscire. Questo lo so perché c'è un amico che abita lì e quindi me l'ha detto lui. È così Gianni, riprende con Mario, faccio vedere il brutto. Siete sopra modulare. Catalino, ben entrato, buonasera. Salvatore, com'è questa? È bella, anche questa è bella, una bella, peccato, vabbè, segnale autoricoliere che la segnale siamo troppo vicini e mi sfera a fondo scala. Ma la radio è bella, ti piace, che microfono stai usando? Sto usando un MP5 da tavola. Sì, va bene, quindi fate conferma da Mario. Mario, com'è radio questa Massimiliano? Non l'ho ascoltato perché ero al telefono, ma dai Mario, questo ho cambiato radio, là, per essere più, per non avere quell'eco fastidioso in cuffia, là. Vabbè, la pulita, cosa vuoi di più? Io ci ascolto bene. Magari sai così, a volte dà fastidio l'eco e quindi preferisco modulare con questa per la notte, là, per fare un questo. Per il positivo, è sempre lo stesso. 9:20 Radio 5. Chiara, bella, pulita. Positivo, dai, vediamo un po'. Domenico ascolti Sassari. Niente da fare, Domenico non ci ascolta, comunque io mi sono affacciato alla finestra e qui sta sempre facendo, Ok, come a Sassari Tornado? Ma qui a Sassari, guarda, io mi sono affacciato 2 secondi fa, sta facendo, ma è proprio serena. Natalino, va qui che sei più in alto, com'è? Natalino, riprende, avanti dopo lui che tu sei più in alto di tutti, là. Io sono più in alto, ma sono sotto le coperte, ma si vedia e non vedo fuori cosa sta succedendo. Io mi sono messo al calduccio perché mi sono cancarato stasera, sono andato a portare dell'acqua in un bar e stavo anche in bagno. C'era un grado quando stavo scaricando, poi salendo passata a mezz'ora addirittura. No, io pensavo che ti rimesso sotto il coperchio per fare altre cose, comunque dai, perché a quest'ora in genere uno sotto il coperchio non si mette, comunque va bene lo stesso già, capisci a me? Cava. No, per scaldarmi non c'è problema, non me lo faccio dire quando lo devo fare. Cava, avanti Giuseppe. Sì. Ehi, domenica ci sali al tempio che c'era sull'acqua? No, lo so com'è il tempo. Può darsi pure, ma non so com'è il tempo, cosa ha fatto. Passi pure che ci faccia un salto, adesso vediamo. Scappa, lo sai perché? È mica le 3:30 e quest'anno ci sono i carri dal Brasile lì. Mamma mia, le brasiliane ci sono, Ali! Allora, ma anch'io. Prima ci vediamo. E a me piacciono i perizoma, capito? Leopardati? Pure che se non sono leopardati da fare. Dimmi, appisolisci, ma è come una dana, era, no? Pronto! Che faccio queste brasiliane, ditemi un po'. Il tempo va bene, faccio il nortanevo, La me è tutto bianco qua, domani ce n'è un metro. Ma quindi c'è gente con la ricotta lì? Domani siamo intanati, tanto meno male le commissioni devo fare le ho fatte, quindi. Da Barroggio, dai. Ok, riprendi, guardiamo un po', Domenico, ascolti Sassari, Domenico, cambio. Perché se? Sì, è registrato. Niente, Domenico, non è successo qualcosa. Non so, o si è fermato con il camion da qualche parte per l'aneddoto. Ok, riprendi il quadrato. No, non penso che sia andato da nessuna parte, comunque buonasera a tutti. Perché adesso salendo laggiù dai punti, qua da noi è tutto bianco. E c'era proprio una, non dico bufera di neve, ma quasi. E siamo abbastanza in basso dove sono io. Se sali su dove sta andando lui, sicuramente ci saranno problemi, perché c'è ghiaccio nella strada. Infatti siamo da poco fa che proviamo a chiamarlo, lui poco fa era zona industriale di Muros, e noi non abbiamo più sentito. Ok, riprendi tu maestro, mi dai a girare. Ciao Roberto, mi hai sentito? Così tuttavia c'erano le difficoltà a buttare a risalire, no? Piano piano, non avevo conto del 60 perché più accelerati non vedete niente, tutto bianco, cioè sono i fiocchi, non dico fortissimi, però più stavo salendo e più ne ho trovato di neve, ma abbastanza, io sono convinto se continua a attaccare bene, quelle allora le macchine sono tutte coperte di neve. Questa è la nottata giusta, dai, come si dice. Va bene, dai, domani non si esce di casa, vabbè, così almeno lui. Allora, scusate, dai, riprendo io, per il momento vi saluto a tutti, causa carica, ce la riascoltiamo a dopo se coincide, dai, per me QRT, vi saluto cordialmente tutti quanti. Ciao Vassibilia, ci sentiamo, buonanotte. Ci sentiamo dopo magari. Avanti Mario. E ciao anche a Roberto. Ciao Roberto, ben entrato. Ciao Massimiliano, buona carica, buon tutto. E ce la si riascolta tutte le prossimine. Gappa gappa, vai. Roberto, parlando. Ciao Massimiliano, il plus, buon tutto, dai. Allora adesso vediamo dove dialogare, ci sono io, Salvatore, Mario, Natalino, Gianni, altri ci sono, Falchetto, dai, iniziamo a dialogare. Avanti Salvatore, poi dimmi chi c'è. C'è tornato Giuseppe. Papa, sì, c'è tornato Giuseppe, che te lo rilancio subito, voglio essere saluti, vai Giuseppe. Prego. Registrato, ecco, sì, grazie Salvatore, rimai che Massimiliano, ci sentiamo presto, buona carica e buon tutto. Buonasera a te anche Roberto, cordialità e ben sentito. Avanti il brecco. Cappa, Falchetto, super cordialità tutta la ruota, cambio. Ciao Falchè, ben sentito, mannaggia, stamattina mi sei scappato dal volante, mannaggia, rivesci. Sono entrato presto stamattina. macchina da pacchiare, così che ho dovuto chiudere tutte le trasmissioni. Ma io stavo controllando, sono anche fermato, controllato intorno al cambio, ho detto mi è scappato il palchetto. Infatti ho detto Mario, questo palchetto mi c'è scappato. Gianni, a proposito, come è andata l'asta? L'asta? Boh, no, io non ci sono andata. Mi ha detto che non era arrivato ancora, quindi sono andato a lavorare. Non lo so se poi... se poi è arrivato, perché chi doveva venire gli apparecchi doveva venire da Urbia, capito? E non si sa come l'ha messo. Ma sarà presente, stavano facendo vendite giudiziarie, non giudiziarie, vendite di apparecchi, baracchini e cosa c'è? Non sono io, per carità. Qua c'è un amico, non lo so, di Capri, non lo so di chi sia. Ho capito, stavo dicendo, forse ho trovato quello che stavamo cercando, io, vabbè, come il TS2000. TS2000? Sì, quello grande della K. Devo dire, stavamo cercando, chi lo stavo cercando per te? Primo, ti dico cosa ti ho detto, che se avessi trovato un buon prezzo l'avrei preso. Ah, sì, va bene, avevo parlato, ma che è tanto tempo fa. E perché hai trovato qualcosa? Forse sì, forse ho trovato uno, ma nuovo, guarda, usato, se l'ho usato due volte troppo, è che ne sa che è una cifra altina, quindi se faccio quel passo devo far su uno di questi. Tra l'altro quello non lo paghi meno di 900 euro, se è buono. No, ne vuoi più, ne vuole uno e due. Se non vuoi nuovo, costano così quegli apparati. Lo so, io lo volete sapere una cosa, l'altro giorno l'ho fatto vedere la nave, come si chiama, quella della portella italiana, come cavolo si chiama, Vittorio Veneto, così. Sono arrivati a cosa, ad Haiti, lo sai che apparecchi stavano utilizzando? Se non mi credo io? Il TS2000 era a Kenwood, hanno fatto una stazione in terra, diciamo, hanno fatto una tenda, hanno fatto le radio, c'erano il TS2000. Sì, no, è proprio bello, è completo, c'è tutto. E questo, guarda, lui dice che mi ha pagato più di 2000, l'ha pagato, e quindi dice che di me non lo vuol dare. Non so, su eBay li trovi dai 900 ai 1000, 1100, però è sempre un rischio. Se questo è buono, il prezzo è suo, è quello lì. Pertanto no, nuovo lo paghi intorno ai 1900 con l'apparato. L'ho cancellato dal computer, non ti dico altro, non lo voglio neanche più vedere, ogni tanto mi arrivano i messaggi, niente li apro, li cancello direttamente. Ok, riprendi Gianni. Io ti dico la stessa cosa, Gianni, vuoi vendere gratis i tuoi apparati, roba del genere, vai sui tuoi e c'è te sì, non pongono a grotti. Comunque Salvatore, il modello migliore è l'X del 2000, perché ha la scheda dei 1200, capito? Quello costa parecchio. Sì, ma tutto quello, c'era la X, ma è anche lui, questo è il più completo che ha, tant'è vero, quella serie speciale, mi sembra serie speciale oro, mi sembra che abbia detto, ok? Nera, è la limite del nera. Però quello mi ha detto comunque questa è la serie speciale, mi ha detto. Lui l'ha preso, questo l'ha preso e poi non sta più facendo niente, vai di qua, non sta più facendo niente, e mi ha detto dice c'è un lì, tra l'altro si deve anche trasferire, c'ha problemi, non so cosa fare, dove metterlo, non a me, però ovviamente devo vendere questo prima. No, se lo vuoi vendere lo troviamo, mi possiamo chiedere a me, Salvato. Apposta, ci sto pensando, vabbè. Perché anche se lo vendo ce l'aggiungo una certa cifra, l'hai capito? Comunque, al 90% se tutto va bene lo faccio, dai. Deve coincidere due cose. Anche perché se vendo questo lo vendo con l'accordatore, intanto non la faccio niente. Perché quello c'è un signor accordatore internamente, Quando lo vede l'accordatore, quello fammelo scappare a me, eventualmente. Salvatore, bello bravo! Se prima arriva vedo di alluggio, diceva quello, Mario. Salvatore, l'accordatore non lo dare, gli accordatori automatici non servono a un tubo. Salvatore! meglio che c'è dagli ulanchi. Va bene, non va bene la connessione del 2000, dice che sia guarda, noi dice che lui ci aveva prima, c'era una connessione esterna, dice che col 2000 non ha necessità. Lascia perdere, che secondo me dove vai è meglio avere quello automatico, io della, cioè quello che hai tu, perché quello automatico sta 2 ore a cordarlo, secondo come c'è l'antenna, capito, la capisci, e non riesci a carcugliare. Ah, per qua dico, con questo accordo sempre, e poi la comunità che c'hai morta che allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 antenne posso attaccare la tariffa. Non lo dare, no, lascia perdere, quello lì tieni te lo stretto. La tariffa. C'è da dire che quello che c'ha lui non sale su certe frequenze, il coordinatore del DS2000 lavora anche sulle V e sulle U, quello che c'ha lui arriva a 30 MHz. Sulle V e sulle U ci sono le antenne predisposte, non c'entra niente l'accordatore. Sì, ma se ti vuoi accordare un'antenna che non è predisposta, come ti fa? I 1200 non li accorda manco quelli, quindi deve avere l'antenna dedicata. Sì, sicuramente comunque avete parlato in due, ho sentito l'ultima parte del discorso, però ho abbastanza capito. Diciamo l'accordatore esterno, se è un buon accordatore come quello di Salvatore, funziona bene, però penso che il TS2000 se abbiamo segnato l'accordante non sarà sicuramente mettere un 440, sarà molto molto più evoluto. Ciao Mario, ci sentiamo dopo. Dai, fateci anche i saluti, poi continuate, Robe. Scusate, ciao Mario, al prossimo, vai. Ciao Mario, ci sentiamo. Prima ti faccio sapere, non sai che ti tengo presente. Ciao Mario, ci sentiamo dopo se coincide. Ok. Cosa ti volevo dire? Le bande alte ci vuole l'antenna sua, se no non c'è nulla da fare. La corda 030 è blu ed è come quello del 440 praticamente, cosa evoluti, sono piccolini, cosa, non accordano niente. Sì, accogliono, è bello da quelli che funzionano tipo carico fittizio, non ti baserisci. Invece quello che ha Salvatore la 030 si è tranquillo. Senta lì, questo è il 440, non l'ho mai usato io l'accordatore, l'ho usato un paio di volte, e sta 10 minuti per accordare, hai ragione tu, non l'ho mai usato, magari adesso se non lo so neanche se funziona, magari vuole anche ingrassato adesso. Oh, io ti sto dicendo, raga, pigli, i sacquigliatori non si viene a nulla. Tieniti quello che è manuale e accetta un consiglio da un amico. Che ho fatto un sacco di esperienza io e so come funziona. Sono piccolini, io l'ho visto anche smontato e tutto. E non ha niente a che fare con quello che hai. Allora, ce lo teniamo, il mio consiglio è sempre ben accetto, Natali, lo sai, poi da te che c'è esperienza ci mancherebbe. No, è un'idea che mi è venuta perché lui è venuto in officina parlandone, dai, poi guarda, se trovo lo prendo, e allora subito mi si sono alzato orecchie, però ripeto, la diversità c'è sempre nel normale, bisogna sempre mettere una certa cifra a disposizione e con i tutti che siamo bisogna pensarci due volte. Ok, Gianni, dai, gira prima tu. La gara, va bene, c'è la passione. Fa anche bene accontentarsi, questo ce lo puoi fare, non c'è problema. Natalino, riprendi, dimmi. Anzi no, c'era Giuseppe prima, scusa la mia notte, Giuseppe, riprendi tu. Sì, tranquillo Gianni, io nel frattempo, ascoltando il discorso mi stavo sbloccheando un pezzetto di parmigiano. Sì. Io invece ho risolto il problema dell'accordatore. Sarebbe? Non ho speso molti soldi, io ho legato il cinesino all'antenna, gli ho dato due giri di corda, mi affaccio dalla finestra, ha alza la coso, la molla, restringe appena la molla, mi ho preoccupato. Canta gamba. Quella sarebbe un'idea, adesso mi busco una schiava negra, la metto sul tetto lì. Ecco, quello ci insinua, e la va bene, tu chissà perché subito la schiava negra, Pepina, vi sempre doppio senso, cioè lì, da accordare, essere accordato, no? E come accorda la schiava negra, non accorda nessuno. Capito, vabbè. Sono porcaccione, è inutile dirlo, sono porcaccione, niente cacca di blu, non lo so io. Chi c'è rimasto? Guardate perché? Robert poi si scandalizza. Ma sarà no? C'è Falchetto comunque in riposo, guardi Falchetto. No, già rimasto in ascolto, c'è problema, già sono in ascolto. Sì, vabbè. Dimmi, insomma. Stasera sono andato, prima di chiudere, quando ho chiuso, sono sceso un attimino da un cliente, perché se lo conosci, non faccio nome perché lo conosci. Guarda, infatti ti dicono che è Portoferro, guarda che questo fa anche la carrozziere, non so, hai capito? No, Portoferro. Sì, fa anche la carrozziere, anche fa anche il carrozziere meccanico, fa di tutto, comunque parlo, c'è carattrizi, vabbè, ci hai capito un dietro il nome. Ma non con la Portoferro questo. Ehi, ciao, ciao, parola, vabbè, comunque, quando sono entrato mi ha chiamato lei, ha detto, vedi qua che ti offro qualche cosa, e c'era lui dietro il laboratorio, c'era una specie di cameretta, veniva dietro con degli amici, e c'era questo maxi schermo che stavano proiettando film di porno. Ha detto, perché ti lavoro, proprio a prima chita mi ha detto, mi ha fatto una bella impressione, Tu oggi, durante il giorno. Stasera alle 4, che tira, Natali, lì si mangia lì, tu sei intrattenuto, Salvatore, peccato! Non ne voglio sapere, Salvatore, se non mi metti malizia poi! Quello ci vuole, ma dico già, proprio appena entrato, proprio per i clienti ci avevo l'accoglienza. Sì, vabbè, dove c'è crisi non ne ha molti, quindi può prendersela con calma. No, già, è una questione di mentalità, di educazione e di vivere la vita in una certa maniera, ovviamente. Non rispecchia quello che fa per me. Io dico, non ho mai un cliente arriva, uno che non conosci, lo porti subito lì dentro, cioè, francamente, ci rido sopra, ma invece lui ci fa piangerci. E infatti. Gente che guarda queste cose probabilmente è poco soddisfatto. Secondo me è così. Capo affermativo al 100%, fra l'altro fossi uno, ma era un gruppo, vabbè, lasciamo perdere. Ok, dai Giuseppe, riprendi. Cappa, Natalì, allora lì non ci dobbiamo andare noi, perché che lì, tanto se fate l'entrata, fatemi su che andiamo. Ciao Giuseppe. Ciao Natalì. Mannaggia, ecco, certo, come primo impatto io dico, poi alle 4 del pomeriggio doveva esserci un ambientino, guarda, tutto rose e fiori in quello stanzino. Uno se fa certe cose le fa di nascosto, di notte, quando non vede nessuno, dove si pone a farsi venire da un attimo, c'è qualcuno che sta chiamando, non riusciamo a dargli spazio, un secondo, è chiaro che avanti che sta chiamando sul 21? Sul 21? Avanti! Sì! E qua la terza parte è sono per la maestra in ottava, chi tu chi sei? Va bene, ok, ti mando avanti la nostra ciliegina della ruota, vai Natali! Non lo sento qua, mi dispiace ma non lo sento io. Manda avanti chi è più aperto di me. Cappa, aspetta un attimo, ma dove stai modulando, Gigi? Cappa, gli ha detto, mi balista. Anche a me. Avanti chi stava chiamando? È sparito, riprende. Riprende il Robè. Lo senti per un attimino, ma non vi credo che sia la Sassari, saltiamo. 5 era. Avanti, chi chiamava per l'ultima volta, se no traccia per sempre, avanti. Avrò portato il vino, lo prego. E mi stava arrivando poco più a più, la settera, mi sembrava strano. Vabbè, faccio il bilancio con il gioco e poi ricontinuiamo. Avanti, ti stava chiamando sul 21. Volevo sapere se riuscivo bene, capito? Arrivi basso, non bene, arrivi basso. C'è un micromatico, questo qui è nuovo, cavagala. Vabbè, sta ancora continuando a nevicare. Carissimo. Non riesco a uscire. Carissimo, quanto tu bianco, domani ce n'è un metro. Vediamo che non ghiacci domani, un casino sta. Un attimo che stava parlando con lui. Anche cosa stavi dicendo, scusa? Non riesco a uscire bene io. Dunque, il problema è che non c'ho quel troppo buono, capito? Scappa, sì sì, ho copiato, ma dove sei? Da che zona stai parlando? San Giorgio praticamente. San Giorgio. San Giorgio, ok, ok. Ma guarda qua, insomma, riesco a sentirti. La radio è un po' bassina, un po' bassina. Comunque, vediamo un po' se gli altri amici la danno. Un amico di San Giorgio ti sente, vediamo un po', Robert, tu lo senti? Sì, lo sento qua. Passo passo, vediamo, forse ti può ascoltare meglio Mario o Gianni. Prova Mario, avanti Mario. Dai il QRT. Ah, giusto Mario, prova tu Gianni. Ma io già l'ho sentito, ma lo stesso passo, dunque. Avanti la vincola di San Giorgio. Ma io volevo una conferma se uscivo bene, cioè sono nuovo di schianto. E io però sapevo se uscivo bene o no. Sei molto basso, sia di Santiago che di radio, riesco a percepirti appena. Probabilmente non hai un'antenna sul tetto, non so che apparato stai usando, se un portatile oppure un veicolare o una stazione fissa. Vediamo, conferma che tipo di apparecchio stai usando e che tipo di antenna. Ma guarda per me un attimino, arrivo subito. Un attimo sul camper, ho capito, e forse per quello se una zona, magari una zona bassa e quindi sì, non ti sa che non ti sento, è per quel motivo. Comunque, non lo so, ottava sta arrivando, ripeto, con la radio un po' bassa, il segnale insomma può anche andare, ma la radio è bassa, magari controlla che non ci sia qualche stazione, se c'è abitazione aria, se l'antenna non stia funzionando bene. Ok, Giuseppe lo senti? Qui non c'è massa sicuramente. Tu lo senti? Beh, non va. Se sta mandicando. Sta masticando qualche cosa. Evidentemente sì. Continua non ad dare a retta a noi, tutti rimbambiti che noi non siamo altro, lui già sta masticando alla grande la faccia nostra. Attenzione, Giuseppe rientra. Avanti Giuseppe, lo senti tornato l'amico ciliegina da San Giorgio. Negativo, mi sono dovuto spostare qui dalla postazione perché ho avuto una chiamata di Veronica e le solite moine che fanno quando si corica. Cavagava, io penso tutti uguali, anche Marcolino. Viene qua con il caso vicino a me, si addormenta vicino a me e poi devo portare le sue. Ma questo mi ha detto ciliegino da Sant'Orsola. Ciliegina. Ah, ciliegina. Avanti ciliegina da Sant'Orsola, cappa. Mi sento benissimo a voi. E riesco a copiarti anch'io ciliegina, dai. E come va lì da quelle parti? Nevica? Abbastanza, no, c'è abbastanza freddo, non nevica, ma c'è freddo. Pari positivo, dai. E vediamo un po'. Panchetto, ci sei sempre? Riprenditela, signor Paico. Io non la sento ciliegina, comunque la se riesce a accoppiarmi. Io faccio. A te, Giuseppe, mi fai sapere, dai. Perché ci dici dai maschietti? Maschietto, mica ho detto femminuccio o maschietto. Mannaggia, mannaggia, non si può, qualche, non si può sbagliare qui che tutti ti correggono lì. Borgo, Ciliegi, guarda che non era fatto con cattiveria. Comunque Falchetto non ti copia, però ti super cordializza e ti dà il benvenuto qui sul magico canale 21. Seguendo l'amico di Roberto, in 10 metri era, insieme ad altri carissimi amici, li sentivo molto bene. Ero in orizzontale, io li sentivo veramente bene. E beh, non hai provato a vedere come uscivi? Sì, in 10 metri. E vabbè, ma in 10 metri uccino, come dico, la Sassari, c'è un colpo importante. No, ne faccio di quelle cose. Per cosa mi hai preso per pirata? No. No. Vabbè. Inocchio! Le prendo io, dai, salutone a tutti, dai, QRX da parte mia, tutte le migliori alle prossime, il Falchetto chiude tutte le trasmissioni, ciao ciao. Ciao Falchetto, ci sentiamo, non si informa stasera, ti sento. E anche io lo sento spento, eh. Ciao Falchetto, alle prossime. Ciao Falchetto, ci buco le dita, ah, sai, aspetta una volta, ti avrei fare le rimattoni, ma poi non puoi fare più una volta. L'ho fatto parecchie volte, in voi, eppure mi hanno fatto anche il controllo addirittura. Anzi, addirittura sono accettato anche il controllo, me l'hanno detto. Mi hanno chiamato pure il confronto, non ci puoi fare il problema. Sono aperto, un momento, arrivederci, buonanotte. Vabbè, non si faccia, io ho fatto così perché, per quale scusa di trovare? Io l'ho fatto parecchie volte, lo facevo a parte prima di essere animatore. Lui, cioè Valde, Gianni Monettore, Marco Ciottatone, una motivia, allora poi parlo così ai rematori e non mi fanno più, scusami, non ho capito. E la sala non capisco la stessa cosa, e piace. Poi se loro vogliono compagnia, ben venga chiunque entri, capita che lo controllo. Loro fanno pizza e nulla, dico, se tengono ore del 5, ciao di Venezia, se tu li devo entrare, poi riesco a chiuso. Si fanno quelle cose, poi io sono un bravo ragazzo e non le faccio. Quelle cose non si fanno. Tu in Natalino non se ne accorge nessuno, no, in Natalino. Ma il timbro va, ma è, dove passa lascia il timbro? È proprio Baghiso, non è voto. Vabbè, ok. Ma Roberto, Roberto, sì. Via. La figura, l'ombra ho visto. Chi è rimasto? Natalino, Gianni, Giuseppe, Antonello, Fantecco andato in QRT, non ci sa nessun altro. I primi Giuseppe. Salvato, è rientrato. Natalino, per riprendere il discorso tuo, tu quelle cose non le fai perché sei un bravo ragazzo e quelle cose bravi ragazzi non le fanno, bravo naso. Carissimo Giuseppe. Non ci provocare Giuseppe, non ci provocare perché noi queste cose non le abbiamo mai fatte. No. Ma quando mai? A proposito di cose fatte o non fatte, sei riuscito a metterti in contatto con Capri2? Era praticamente disperato stasera cercando, ti stava cercando in tutti i modi, ti ho cercato sul 5, anch'io sul 21, in barra pesante, ma niente da fare, sicuramente aveva bisogno di qualche consulenza. Stavo aspettando qualcosa, ma aspetta, non so perché fa la Urge e quindi rientra domani sera, ma ce l'ho fatto poco fa, rientra domani sera Urge, la Urge e quindi mi fa la roba qua e poi vediamo un po', capito? Va bene Antonio, mi è dispiaciuto perché era praticamente furibondo stasera, perché mi ha detto che a quanto pare ha intenzione di lasciare la modulazione e mi dispiace perché, mannaggia, non gliene sta andando bene una, mi ha detto che gli si è bruciato il lineare che aveva preso alla GBC ed è a dire furibondo dir poco. Io mi auguro che mi stia ascoltando in questo momento. Se vuole entrare è sempre il benvenuto. Giuseppe, ma che linea aveva? Perché? Ha un valvolare che ha preso alla GPC e gli ha dato un sacco di problemi, e ha cercato di sistemarlo in mille maniere, qualche soldino, poverino, ce l'ho anche speso su quel lineare lì e niente, gli si è di nuovo fulminato tutto. Era quello che si chiama Giulio? No, no, lui luce 231 penso che sia. Quello. Chi si era? Chi si è? A quanto mi ricordo io. Un CTA è quello che si chiama Giumbo, mi sembra. Ma di cos'è? Non è che ti hai invogliato? Sto usando il microfono normale, mi si è rotta la prunga e non ne ho avuto voglia di farla. Anzi, non aggiungo una più di quando. Mentre mi vedo, ti da prima come ce l'ho stramato, mi sono stancato. Guarda, ascolta Natali, guarda, pur non sentite dire queste cose, c'ho cioè una prunga mai usata, una poca prunga, già predisposta con gli spunti. Da quanto ti servono gli spunti? Da 4? C'è la panacchina attaccata. Cali. Non è attaccata a letto Natali, la canale è stato un letto, quindi stavo usando il microfono, ma non so perché. Perché non lo posso attaccare il Mavic più 4, mi si è rotta la prolunga, capito? Sto usando il microfono normale per quello, e meno male che l'ho comprato, se no non potevo modulare. Sì, normale, non c'era il microfono così tanto, se ti fosse il microfono a tavolo, ci vuole staccare, no, il microfono a tavolo non rischi di staccarlo sempre, io cerco, uso sempre il palmare, per quel motivo lì, se mi dico fate il microfono a tavolo forse. Uso sempre a parlare per questo motivo, perché quando tiri la parte, tiri dall'altra, il microfono si parla, il discorso è quello. Un attimo, Natalia, quanti, lo spiotto quanti puli ha? A 5 puli è quello delle Mavic 4, perché attacca per il President. Io gli avevo fatto una prolunga che entrava a 4 e usciva a 5. Natalia, io ce l'ho uno di quelli, quando vuoi passi te lo prendi. Io ce l'ho una prolunga mai usata, me l'avevo comprata perché anche io volevo fare portare il microfono lontano, non l'ho mai usata. Cioè, da una parte a 4 mi sembra la roca sia a 5. Me la metto guarda, dentro il giappone, non me la faccio che la prendi. Se posso uscire, se no per un metro di occhi. Devo andare anche a ritirarmi la carta del tachigrafo, sempre che sia arrivata, ma cosa mi sa che con questa neve da Olbia me l'hanno mandata per sbaglio a Olbia, te l'immagini? La carta di un tachigrafo? E allora, a Olbia me l'hanno mandata. Scusa, che tachigrafo? Perché sul camion? No, per il tachigrafo digitale ci vuole questa carta, ci vuole, no? Se ti capita un mezzo al genere lo puoi portare. Ah, ho capito, sì, è tornata a Urbia. E non ricevi stamattina, sono passata a Urbia. Sì, vabbè, doveva arrivare domani, ma se c'è neve mi sa tanto che manco chiamo. No, ce l'ho andato a Urbia con Natalita che ha telefonato un amico di mio fratello, ma io sono andato a Urbia. Hai capito? Che non c'è manco la goccia. Non so di farla, ma mi ha chiamato di che l'ha fatto. E dove? A Urbia? Sì, a Urbia, quindi c'è che dovrebbe scendere da ogni mattina alle 8 e mezzo. Via Olbia, se vedete la porta da Demo e poi sali su a Sassari. Tutto sto dicendo, neve non ce n'è per niente a Olbia. Sì, ma delle Olbia già la trovi la letta. No, non credo, no, non c'è per niente stasera. Non ha fatto tutto niente, viene in sette il minimo cosa la dritta. A meno che non la facciamo ogni mattina, o stanotte, non lo so. Comunque, neve, stasera non c'è niente. Addirittura deve mancare la mia luce, perché neve è stata ricente. Sì, la neve ce l'abbiamo noi. C'è qui, ma quella voce l'ha fatta. Buonasera. Sì? Di questa roba che state dicendo voi, solo a livello di curiosità, non è di mettere sì niente. Che cosa c'era di Roma, questo amico vostro? Quelli di Roma c'è, domani fatti sentire, te lo dico, te la faccio vedere, la provi di qua, se ti va bene te la prendi, se no la lasci qua e basta, me la portano di sera, e te la porto stasera, c'è un po' di roba, c'è parlato che lui non è fregato niente nella 27 dopo la macchina più che altro. E quindi la fa fuori, fa quel motivo lì. Insomma, ogni sera me la porta qui. Perché dice, se domani mattina trova la testa, sarei qui, dovrebbe essere qui. C'è poi i microfoni, chi sa più le base, quando si parla, ce n'è uno, Chris, c'è. Quando parla la teatro con Volfeo, poi c'è un Torrente 1155, c'è... Poi io vado, ma vedi, cosa ti posso dire io? Ma vedi, se ti va bene, la proprietà, te la porti via, se no pazienza, non succede niente. No, non so quanto le interessava un portatilino di quelli antenne con l'antenina corporata, ma poi si sono fatto fra 26. Sì, no, non stavo ascoltando, te lo stavo tornando lei, non è che ce l'abbia lui, no? La TH71, per la prima volta. Il TH71, ma che cosa fa quello lì? No, quello ce l'ho già, ce n'è uno. Fa due e anche altro. No, mi interessava un portatile per la 27, sto portandolo presso quando esco il mio nome. Oh, io lo posso chiedere, non so se mi si fa venire qualcosa. Io lo chiedo. Un programma che avevo regalato io, ho fatto tutto. Un vari apparecchio, un simboli, un sorpresso, un paio di cose. Io lo chiedo. Bene, che chiedi anche me lo faccio a te. Va bene. Facciamo girare, Giuseppe, prendi. Gatta, Pomponio, prendo tutto io in blocco, ti faccio un segno in bianco e poi tu metti la cifra. Pensavo che facesse qualcosa, no? Il capo condomino faceva gli assegni in bianco, la polizia cosa sta passando? Eia, ma io faccio un segno, non un assegno, in bianco. Ma penso quello che si è girato una parte del tetto, A grosso di rubare il segno, Giuse. Oh, attenzione comunque, comunicazione di servizio, se andate da Pomponio, non usate l'ascensore. È a posto adesso. Ma non mi puoi più. Mi sono domenica. Quindi... Gianni! Ah! posso anche ascoltare, dai. Tanto vedo che mi state capendo più un Antalino con la questione delle donne, io cosa c'entro io? Oramai la donna mi tengo la mia. Ma per andare a contatto con Antalino, quando si è bloccato l'ascensore è rimasto chiuso con una brasiliana, a me è una bugina lì. Ma cosa? Antalino, ci voglio credere. Che l'hai arrivato? L'hai arrivato? La pigrisa, gli ex sono gelosi. Oh, Natalino, allora non mi posso fidare, sono io. E gelosi di cosa? Io comunque sono rimasto chiuso con due ragazze brasiliane e anche quando stavano facendo ciucciumi. Aspettavo che uscivano i cibi da fuori facendo i porcelloni. Tu sei rimasto chiuso con qualcosa. Mario, ben sentito, mannaggia, raccontaci com'è stata l'avventura di queste bionde che sei andato a prenderti, com'è la temperatura fuori, le strade sono praticabili? Sì, qui per lo meno è tutto praticabile, c'è giusto qualche accento di macchina bianco, ma non più di tanto. Ecco, allora conferma quello che ho detto io poco fa, ma noi qui in Verno conosciamo Mario, questa neve è per caso. Ma dai, cazzo, l'unica cosa che vedo dalla mia macchina, l'ho posteggiata un poco fa che era grigio metallizzata e ora è bianca, ma appena appena, ma se ne vediamo le fuori, non lo? Già, ma basta andare su a Milano, a Torino, e sanno cosa vuol dire neve. Qui con un colpettino di vento, una pisciatina d'uccello e porta via tutto. E in montagna magari deve essere tipo fuori in quelle zone lì, già rimane un po' perché le temperature sono diverse, ma noi qui in zona di città proprio siamo, noi siamo in un paradiso terrestre. Se tu guardi, tutti quanti vogliono venire qui, i calabresi, i napoletani, i siciliani, piemontesi, perché? Perché dicono che la Sardegna è un paradiso terrestre. Lo so Mario, però confermo quello che ho detto poc'anzi, e te lo confermo anche per quello che vedo io viaggiando. E due gocce d'acqua, due fiocchi di neve, cioè la gente va nel panico totale, ma qui non abbiamo né acqua né neve, se questa è neve io esco con Napoleone. Noi siamo abituati, come c'è un po' più di freddo, noi siamo abituati a temperature minimi, Giuseppe. Cappa Gianni, quindi si ritorna al discorso che ho fatto io. La neve c'era quando ho fatto quel Torres e Genova, sbarcato dalla nave e stava nevicando. Ho fatto Genova Trezzano sul Naviglio, Trezzano sul Naviglio a Viategrasso e a Viategrasso Genova. Tutta la domanda, ma neve, tu devi vedere che cosa c'era nella strada. Eppure spazzaneve andando e tornando, quella sì che era neve, e allora lì si vede se sei bravo quando stai guidando, hai capito? E gente, ti parlo anche di pure camionisti, camminando come che la strada fosse asciutta. Cazzi, mi scusa Cazzi, Giuseppe? Sì, avanti Robby. E hanno buttato, hai visto quello svincolo entrando prima di andare in Italia di fronte al distributore che sembra la specie di frattuglia, che scendi con la rampa e poi sale, e adesso ci è uscito fuori qualche articolato, mi ha radicato tutto, ci sono tutti i pizzi di travi, adesso stava trasportando qualche trave di quelle prefabbricate, infatti ti viene più avanti, c'è un rimorchio in una posizione pericolosissima, infatti l'ho visto di notte, appena appena si vede ci hanno messo un cartello, uno si è detto un po' veloce e si frantumeggia, talmente messo male. C'è qualcosa? Sì, K, quello lì è l'articolato di Salomone o Salamone che sia, pare che sia Salomone però. Niente, l'ha preso un pochino veloce e si è coricato. Ha distrutto il centinato, la motrice dalla parte del passeggero è distrutta e c'erano i vigili del fuoco sino a... Allora io sono rientrato qua che erano le 5 e ancora ci stavano lavorando. Figurati, con un metro del genere ti metti a correre con la cusola. Sì, ma quello sicuramente era... carico, ma ci passo con la mia barra in, in setta normale, ma ci passo a 40, non di più. E 40 è già tanto, perché devi cammini piano piano, in macchina devi cammini a 40, se vai più veloce devi fare altre torsiate nel salti della carrozzia, perché figurati un camion, devi portare quel carro, stava anche camminando secondo me. Roberto, accappottato sulla destra, quindi quello stava pompando alla grande. Io ho visto tutto sradicato, cioè sembra che sia passato una luce ma ne abbia raschiato tutto, cioè talmente, e poi l'hanno lasciato più avanti, la cosa brutta è che le moto l'hanno lasciato di lì, dopo la curva, ad un punto buio, pericolosissimo. Perché lì li ha presi anche il brutto tempo, il buio, che lì dovevano lavorare con le poppe elettriche, se non riescono a coso lo possono anche tagliare in due come hanno fatto con quello di Saccargia. Lo tagliano in due e lo caricano con i camion gru e lo portano via. Lì è da arrestare lui che ha provocato quello che ha provocato, è andato bene, che ha preso la parete e non ha preso altre macchine. È da arrestare chi ha lasciato il lavoro così a metà, perché cioè non ha ragione di esistere lasciare un mezzo così abbandonato tutta la notte, anche se metti due cartelli e quattro giri di quel nastro fosforescente, mi hai capito? Fosforescente, hanno messo un cartello di quelli pericolo, buttato in terra, ti sto dicendo, se sei sempre un po' veloce, dili, tenete tu come sotto il rimorchio, ti frantumi, ma è pericolosissimo. Vabbè, facciamo girare avanti, Salvato. Non ho capito dove è successo. Beh, sei presente tu, la strada 131, prima di arrivare a Zappa, dove c'è quella frettoia, che c'è quel distributore sulla sinistra, che poi ti mette via l'Italia, poi presenti noi frettoia lì, e dopo mi vio per i tiri. Ho capito. Robè, riprometto della Kuwait. Io amo con mio cugino, era proprio col pezzettino di strada, la cosa era appena inaugurata, lui neanche lo sapeva, è stato un poco veloce e è morto di lì. L'ho saputo, è stato proprio per sua sfortuna il primo che ha inaugurato quella porcheria che hanno fatto le robe. Lui non lo sapeva neanche perché era un po' che non ci passava in quella strada. Dica, poi dopo, la settimana dopo era già tutto illuminato, tutto fatto con i segnaletiche e tutto. Infatti la famiglia volevano denunciare tutto quanto, però alla fine hanno lasciato perdere. Una tragedia, un ragazzo giovane, 29 anni. Lo so, sai cos'è? Che aspettavo sempre il morto per fare le cose, è brutto dirlo, però è così. No, lo so, è lui me, a proposito, Salvatore, non è cosa del figlio di Danilo? No, quella di... E cosa è successo? Ma nel vestito, lei si sente tornare a scuola, beh, perché non mi spavento, ti vi attero, è fratturato. Andando a scuola, alle 8:30, abbiamo passato le 26 pedonali con i vigili e col semaforo il passaggio per i bambini avanti, passato questo ragazzo in moto l'ha preso in pieno. Sì, ma è un'occasione, guarda, io non vedo così, non me lasci, vanno attraverso la strada e sarei diventato un pernalotto, mamma mia. E poi c'è stato altro, ti viene bene. E poi lo spavento il padre che l'hanno chiamato, un amico, gli ha detto vieni c'è tuo figlio qua in terra, infatti roba assurdo, già pigliato, c'è uscito a manetta. Lui si avvicina qua alla scuola, dove è successo. E c'era in terra il bambino con il coso, l'hanno coperto, di sbagliamuso. Mamma mia, mamma mia. E l'autore della motocicletta non ha fatto niente da Lino. Un ragazzino dice, che è passato a manetta, infatti tutti i testimoni, dice c'è sceso a manetta col semaforo rosso. Vabbè, ma ci sono i genitori che pagano per lui, così imparano a non educare il figlio, perché deve farlo Danilo, deve fare, sponsorare deve fare, rispondere ai genitori. E dice dolore poi, quando l'ho portato in ospedale, ha detto si allontani, hanno fatto allontanare mio madre, mio fratello e la moglie, ha detto vada via, cercate di non farmi male, ha detto faccia una cosa, si allontani, dice le grida si sentivano, perché le hanno fatto la scomposta, le hanno rimesso a posto loro, dice le grida di questo bambino. Non posso immaginare come quando ti si frattura il polso, ci ha sobbricato da voi, vabbè, proprio una delicatezza hanno. Non lo so, purtroppo devono fare la manipolazione perché se no ti rimane messa male l'osso. Sì, lo so. lo so che mi sono dire dovevo farlo, ma nel 2010 che ancora si faccia come si faceva nel 1800, che ti lo tiro così con lei, o con un'anestesia o qualche cosa a soppirti, ma allora ti fa pisciare in un dolore. Però su Danilo, ecco, se ne andato, ecco, deve andare via, lui lo dice, fa piacere per il padre, da quando è andato dove il figlio. Me lo immagino, va pure. Ma come lo telefono? Non lo sapevo, ma stamattina è successo quindi. Allora perfetto. Sono cose che l'hanno fatto, quando succedono, ti fanno pensare di farlo. Grazie a te, che quello della gente sui passaggi pedonali, invece sembra che tu più sia un optional far passare la gente. Ma è vero, i vecchi anziani, quelli delle porpore, non sai, con certe volte, quelli che attraversano la barca al cimitero, vabbè, sembra che un terno al notte passare lì. Io lo so, purtroppo, vabbè, facciamo girare. Allora, già. E poi ti fermi con la macchina per far attraversare la gente, passa uno in moto, ti sorpassa. L'altro giorno, guarda, non so come ha fatto questa qua, mi sono fermato per farla passare i passaggi pedonali a questa anziana. Questo caso per vedere se lo prende e sorpassa, e questa era in macchina, non era in moto. Poi lo sorpassa, c'è per poco la presentina, ha frenato, proprio lo spidolio delle gomme si è sentito a tre che... allora già ti fermi, gli ho detto. Cazzo, ma non mi hai visto che mi sono fermato, gli ho detto. Ma io pensavo, ma cosa pensavi? Accettati delle cose, gli ho detto. Se la cazzo vai si cammina così in macchina. Non ci sono parole, ma... Ok, va bene, sì, io andrò un attimo a mangiare qualche cosa, e poi casomai, tanto fa sempre, non c'è niente, riprendiamo. Saluto a tutti, Roberto, Gianni, Giuseppe, Mario, Antonello e Natalino. Ok, corretti per me, io vado a cenare. Ritiro me. Sì, allora anche l'occasione, sono come tutti i casi per la raffreddore, non riesco a farlo passare. E mi passa la mattina a vedere il raffreddore. E adesso mi prendo la medicina, mi ricordo pure io. Dai, vi saluto a tutti di nuovo. Ciao Salvatore, Gianni, Natalino. Non so se ci sia la parte che sta chiuso, Giuseppe, Mario, quindi mi sto dimenticando, e Antonello, dai, saluto tutti gli eventuali ascoltori, cuore di la parte mia, ciao a tutti. Ciao Romeo, buonanotte, avanti Antonello, non riprende, Natalino. Ciao, ce ne prendo io. Ciao Salvatore, buona carica, buon tutto, e niente, alle prossime se coincide e nulla. Ciao Roberto, anche tu curati il raffreddore, è stato il caldo. Ciao, buonanotte. Riprendi Gianni, anche io mi assento per mangiare qualcosa, là. Ciao. Ciao Mario, allora buon carica, dai. Avanti Giuseppe, pare che siamo rimasti in due. Ciao Roberto, ci sentiamo alle prossime, Salvatore, buona carica e buon tutto. Da te, buona carica, mangia bene, piccante proprio alla sassarese, così quando entri sei più in forma di prima. E avanti se c'è qualcuno sul punto. Avanti per... perché c'è questa voce? Buonasera. Sì, perché c'è questa voce? Mi sono stato male c'è stato. Oi. E cos'è? È il principio accelerato. Ah, vero? Da dove? Serenetta. Ma insomma, di qua io ho scaricato... non va tra tassi di acqua, c'era un grado di temperatura quando stavo scaricando, un freddo, la grippa. Capo, io ho preso freddo, sono andato poco fa a prendermi la macchina e non funzionava il treno di cristallo, mi sono messo lì adesso che devo fare qualcosa, invece mi sono ghiacciato i piedi. Sta allucinante. C'è la neve, e allora la piena ti può questo è. Mi ha preso male. Vabbè, adesso ti si è ripreso, ma lo spiaggio l'ho portato. No, no. A casa non sono scesi, ma te lo so che ho fatto giocare vinto. Comunque Giuseppe è partito la rada, eh. Ah, non ti impasto. Beh, ma insomma, a ne vogliamo mettere di cosa a posto? Se la piglia in culo pure la macchina, ci mancherebbe altro, cazzo, che devi stare lì a prendere prezzo, usavi il moto direttamente, e partire da Grozzi, da oggi, e tiratele in culo e dormi lì. Lo so, ho sbagliato, ma è anche già tardi, sono finito alle 9:10. E cazzo, lo vedi, lo rabbona, ti mostro signori, cazzo, non ti guai. Ecco con ragione, e la voi, cazzo, figurati con la neve in terra, allora sai come ti sale subito nei piedi il coso del freddo. Ero già mezzo andato con la vita, insomma, facendo una serata bruttissima. E poi sto cercato di essere bloccato dal ghiaccio sotto, dove c'è il motorino. Invece niente, invece che il motorino stava già facendo casino la prima, ma il granato e non vuole perché. Va bene, arrivo. E se lo fa, lo sto facendo Giuseppe, quel camion, che è partita la ralla. Ralla gli è partita, ma non l'hanno staccata i cosi, i vigili. Capo. No, no. È partito la ralla, è partito là sotto, il come si chiama, dove c'è il ponte, è partito da lì, il camion ha sbandato, è venuto addosso la cabina, e si è rovesciato il cabinetto. Infatti io ho visto un pezzo di coso al volo, perché poi non ci hanno fatto manco fermare, hai capito? Cioè proprio riesce a vedere con poche cose con la coda dell'occhio. Cacchio, gli si è spaccato in pratica dalla ralla. Sì, capo, gli si è spaccato la ralla. Non gli aveva colpa, lui non è entrato abbastanza bene. Soltanto che su quell'avvallamento penso che sia la causa di tutto, e poi aveva sicuramente aveva un buon carico, non aveva travi, aveva frutta, verdura, banane. Mi sentite? Sì, avanti. Ecco, ho dato controllo, e qua si è ripreso tutto di nuovo come la prima. Parlato io al volo, sei a fondo scala e una radio 5 da incomincia. Sì, ha detto da incomincia. Ciao Giuseppe, salutoni. E vista, ha fatto un po' di neve qua, Poco a poco, dai. Tu quando l'ho vista quest'anno, possiamo dire a quello. Qua la fa ogni volta di pappa. No, volevo controllo, vabbè, tu sei vicino, confronto. Da Pierpaolo, se il segnale è mio, sempre quello di prima. Da già anni, non so, gli altri quelli più lontano. Nove sul più, come sempre. Nella radio 5. Vedi, adesso non qui che mi sale di più, ma non so perché. Allucinante, va. Veramente, non ho parole. Questa macchina è strana, molte volte scende di smite, molte volte sale. C'è la umidità, Da te come sono, già sempre lo stesso? Sì, sei quasi 9:30. La radio è a posto, non c'è niente, rumori. No. Sicuramente la pioggia che provoca umido e cose, per come si asciuga la mattina va bene di nuovo. Ma scusate, qualcuno di voi sa se si può modificare il typhoon, lo mette di lecco dentro? Non lo so. Il typhoon non l'ho mai sentito. Ah, forse sì. Pierpaolo, il tuo non è un typhoon. Con due, vai, fa vedere, parla. E quello che sto parlando è Tulle. Cazzo, lusso, conto hai speso? 150. Poco. E vabbè, te ne so, ecco il buco, è il bip. E cos'altro li vuoi mettere? La rivetta ce l'ha tutto. Infatti, sono un po' troppo 150 euro. No, anche vanno regolabili. E vabbè, se tu gli dai una 48, 150 euro ti fa, base regolabile, canale per sopra, non c'è il bip, fortezza regolabile, ti dà 180 lì. Ci vogliono 350 euro se gli dai 48, 350 euro per mettere il canale sotto, sopra, schiena dolce, bip, tutto quanto, farlo blu. Dai, così, questo andava là. Comunque se mi state dicendo che se non vuoi prima va bene, dai. Se non ho capito ogni tanto l'ho fatto, non l'ho mai fatto, io mai. Sicuramente la lanterna fa entrando acqua nel capo, È strano, perché se entra nell'antenna l'acqua dovrebbe defluire di nuovo, c'è un buchetto per farla defluire. Sì, vabbè, nel capo diciamo, nel PL lì, la vita PL. Praticamente come si dice, non è vulcanizzato bene, l'appoggetto non c'è perché non l'ho mai messo e sicuramente rientra acqua dentro, magari con la furia di modulare poi si riprende, si asciuga. No, non ne ho messo manco io l'appoggetto, non te lo ricordo, abbiamo vulcanizzato insieme il mio. Ha fatto un cazzo, non andare con l'antenna. Ci ha pagato, all'inizio sì, dopo l'abbiamo fatta bene. E non ha più rotto le palle. Sì, infatti. Andava, dai, Giuseppe. Scusate la mia intrusione, io metto sempre così, come maleducati. Non riesco a fare bene, capito, però sei sincero. Vai tranquillo, Luca, non si sta solo parlando di problema, figurati, è sempre un piacere sentirti. Andava, dai. Adesso chiamo un amico un attimo al computer, gli devo dire una cosettina, vai per fare, prendi tu per girare, dai, ti ascolto. Capo positivo, vai. Mi sa che adesso quasi posso anche andare a mangiare qualcosina, vai. Ci mancherebbe altro che fare una bella cosa calda a casa, lo sai come ti rimette in sesto per il prezzo che hai preso. Molla tutto, guarda, dammi retta e mai si veda il baracchino, già può aspettare anche una mezz'oretta, ti mangio una bella cosa calda, Pierpa, e vedrai come ti rimette in sesto. Capo, prendete già. Mi devo piare se basta. E poi ci premevo via, come prendete voi. Cavagare. Buonasera. Ciao. Già. Quando stavo facendo c'era un bel quasi non si vedeva, ragazzi. Guarda che è brutto, mi sei. Se tutti gli appaganti quando nevica ti riflette in una maniera allucinante. Io lo so. Infatti perché ti ho chiamato, ti ho detto stai attento perché la strada che sta nevicando. E anche io sono un po' freddo. Ti sto dicendo che sono andato a scaricare in questo bar dell'acqua. C'era un grado, ma aveva un freddo. Dopo io sono arrivato sui vidriati, 0 gradi, completamente a zero, a temperatura. E lì ha cominciato dalla cantoniera, prima stava, diciamo, c'era quel nevischio sciolto. Poi dalla cantoniera ha cominciato a nevicare, mi ha accompagnato fino a Sassari, sempre nevicare. Cavolo, dobbiamo avere molta attenzione. Sempre molto freddo. Infatti adesso mi sono tutto riscaldato, ho trovato un po' freddo. Perché stavo tremando. Beh, anche qui. E poi si stava anche facendo quel lavoro nella macchina, anche lui con questo freddo. Non ce la faceva per tornare a casa lo stesso. Cosa vuoi dire, già? secondo te, quando questi tropicosi si girano di mare a meno e diventa nervoso, non sanno cosa fare. E vabbè, che è solo da vestire. Suga. Guarda, non ce la facciamo manca a salire le scale, va. Dovuto scendere io, sono dovuto scendere correndo. E già non credo, ci parebbe dei piai. Ipotermia. Lo so. Vabbè, metterci di vicino alla stufa, così, ma viola ce n'è ancora. Ho dovuto accendere la stufa, cioè la stufa era già accesa, ho dovuto mettere a manettone, poi buttarmi le coperte sopra, correndo. No, ma gli altri che dopo ti fai tutto il corpo, non hai capito che dentro di cui passa tutto il corpo. Vabbè, interessante che ci ha rimesso il sesto, hai visto tante volte, a me mi piace, però provoca cose acidi, dai. Non so, mai avuto un cazzo di motto che è proprio tutti gli spifferi, un cazzino, guarda, da dimenticare. Chiaro grido, sì. Quando si deciderà a comprare un furgoncino, che ti chiamava nel furgoncino col coso, dietro, da sole e via. E mo te vabbè, è troppo freddo. Oh, io la mia ogni tanto la metto in moto per farla girare. Molto caro e non è che sia chiuso, meno male. So che... lo sai cos'è? Che c'è il riscaldamento rotto e quindi adesso ci metterò qualche pezzo di cosa a farli un po' di a casa. Lo so che è molto caro, ma anche poi lo metto che roba di spifferi d'aria, è come ti andai morto. Già lo so. Guarda, si è rotta con la cornice dell'aria calda, casino. Via. Tanto purtroppo. Che ci passa il convento dobbiamo usare. No, a me già me l'hanno comprato nuovo il furgone, non ci hanno ancora il mio, nuovo nuovo. Non voglio darla. A manettone la stasera, anche se fa male scendendo, però tutti i ricordi ti fa male, però cosa fai? Era un freddo, sai, turbi di freddo. Scappa. Adesso mi sta bevendo una cosa calda. Bevendo, madonna, meno male che io ho avuto l'intelligenza di bermi, cioè pure io ero gelato, gatto, non la vaglia più, ho avuto una cosa che ho trovato, quel meccanico mi sono fatto dare un bicchiere d'acqua a vita per riscaldarmi un po'. Ma dovete entrare in un bar, prendersi subito un tè, caldo, qualche cosa, di modo che a casa non ritornassi più tranquillo, No, non è facile già, perché quando si cura la presa i ghibi, non è facile. Te lo so, quando stai lavorando, però devi guardare anche a te stesso qualche volta, no? Non ci pensiamo molto a noi stessi, pensiamo molto... al lavoro, però a tu, qualche volta almeno, a se stessi bisogna badare, almeno quando uno sta bene. Avanti Giuseppe. Sì, già, grazie. Ciao Aldo, ben sentito e ben rientrato a casa. Niente, come ho detto a Don Marco poco fa, adesso pensate a rimettervi un attimino in sesto, sistematevi bene, le roba bella asciutta, bella stufa, a manettone vicino, magari anche se poi riesci a convincere tuo padre due paia di calze per il momento, in maniera che risistemi la circolazione dei piedi, che quella è la cosa più importante. E poi vaffanculo, dai, per oggi è passato. Figurati che io stamattina alle 8:30 il camion, quando ho cominciato a scaricare, segnava meno 2 a loro. Ma ne vengano stava? Capo di positivo. Ma lì arrivavano non così, no, quelli non erano più, piccoli erano più palline da ping pong che ti arrivavano a capo. E lì, meno male che te ne sei uscito subito, se no avresti dovuto passare la notte, secondo documentata. È quello che stavo tenendo, Antonio. Quello stavo tenendo perché allora avevo tre scarichi. Poi sono dovuto scendere giù a Siniscola. Cazzo, avevo una paura quando ho preso lo scorrimento veloce lì da Nuoro, perché ci sono dei ponti, no? Non so se l'avete mai fatta quella strada di cazzo, ma sono un bei alti. Tanto ho toccato, magari mi capita di trovare appena appena di ghiaccio, non conosce manco morte scendendo lì. Piano, scendendo col camion. Piano, sempre andente. Ma lo sai che guidando di giorno sembrava che arrivassero in faccia quei cosi, quei fiocchi, ma belli grandi, belli corposi, guarda che c'erano dei momenti, eppure, dico, di giorno, tipo agevolare di più, no? Beh, c'erano momenti che te ne facevi fatica anche a vedere davanti, talmente stava nevicando. Sì, e poi quello che succede, lo sai, no? Ti si forma tutta la neve nel vetro e il tricicristallo non parte più. Infatti quello anche, perché ogni tanto quando vedi che il tricicristallo sta cominciando a forzare, per forza di caso devi tornare e dargli una pulitina almeno nei cosi, negli angoli, per farlo arrivare a fine corsa. E poi tu immaginati come è successo a loro, ti lasci la macchina tutto il giorno lì ferma, vai a prendere e ti trovi il motorino ghiacciato, no, e già lo molli così intanto lì ghiaccio. Lo so, mi è successo anche a me una volta e me l'ho vista brutta, mi sono dovuto fermare, mi sono fermato proprio in una sosta e sono dovuto scendere dalla macchina e prendere, avevo la paletta, quella paletta per raccogliere la roba dalla macchina dall'interno, no, con la spontettina. Ho preso la paletta e con la paletta ho tolto tutta quanta la neve. E mi è venuto più facile che farlo con la mano. E infatti, tutti guardi a me una volta, non con questo di camion, con l'altro, ero tra Olbia e Arzachena. Neve già, neve che a quanto mi poteva scendere, perché poi sono venuti a prendermi perché il camion l'avevo lasciato ad Arzachena da un nostro cliente. Tu figurati che da Olbia a Arzachena, nevicando, che quanto Dio ne mandava giù, mi si era rotto il tricicristallo del camion. Cogna sfiga! Sembra una cazzata, ma è una sfiga grossa, quando nevica non avrebbe il tricicristallo. Poi Yuji, sai cos'era? Era tipo una bufera. Ti veniva la neve proprio frontale, non so se mi spiego, no? Invece di cadere di tacca, ti cadeva frontalmente, proprio, ti arrivava proprio dritta dritta al parabrezza. Ecco, ti fa come chiudere gli occhi. Esatto. Ti dà fastidio alla vista, perché è un bel bianca e fitta, capito? Cappa. E poi quando ti trovi in mezzo strada è ancora peggio. Infatti, perché la visuale è quella che è, specialmente la mia, che c'ho un occhio che quasi non serve più se non lo faccio operare. Per te che cosa ti è successo all'occhio? C'ho una cataratta e la devo operare, e mi fa vedere tutta nel piatto. Ah, ho capito, mannaggia, non ne manca mai comunque. L'altro l'ho già operato, adesso devo operare questo, l'altro è andata bene, grazie a Dio. Mi hanno cambiato il cristallino e adesso va bene. Adesso c'è questa qua, mi avevano già chiamato in ospedale per farmi l'operazione, invece io dovevo rientrare al lavoro e non ho potuto prolungare. Giuseppe lo sai benissimo, non potevo prendermi anche la malattia dopo tutta la gambarada che ho fatto dopo l'incidente. Lo so, perfettamente ragione, dai, perché sono cose che pensiamo noi, padri di famiglia e gente che ha anche una responsabilità sulle spalle del proprio cuore. Ma tu riprenditela, dai. E Antonio deve se ne sta scaldando. Gappa, Giuseppe, è così. Purtroppo non puoi permetterti di fare una cosa del genere, diciamo quello di dice, questo se ne sta fregando, e sta facendo quello che vuole lui, capito? Invece adesso mi sono rimesso in lista, dopo un anno che ero in lista mi chiamano proprio il 14, il 15 dovevo rientrare al lavoro, il 14 per fare la visita, e dopo una settimana avevo l'operazione, però io dovevo essere già al lavoro, capito? Lo so già, come ho detto poco fa, quando una persona è responsabile sa come funzionano le cose, magari secondo Pitrovic, ma chi non se ne frega, tanto l'operazione la devo fare, la faccio lo stesso, del principale non me ne frega niente, tutte quelle storie lì, però in effetti non funziona così. Diciamo che adesso magari capita che più in là le chiederò le figlie e la farò sicuramente, solo che sono di nuovo in lista da capo, ero il primo della lista io da operare, perché il policlinico aveva chiuso la sala operatoria per l'oculistica, c'erano stati dei problemi burocratici all'interno della direzione, dovevano riformare il direttivo eccetera eccetera, e avevano chiuso per un periodo. Quando hanno riaperto, il primo che hanno chiamato a me, capito, dice, ma se il primo vi stiamo chiamando dopo tanto tempo, dice, lo rifiuta, gli ho detto, e purtroppo per me non può chiedergli dei figli, non può chiedergli qualche cosa, se sì dei figli. Giuseppe, vado domani in quel paese. Ma magari poi facevi uscendo dall'ospedale e non provando più il lavoro. Infatti, no. Voglio anche dire questo, che mi stanno un po' di problemi anche nella guida. Certo, lì bisogna agire il prima possibile, però adesso anche tu sei legato a questa benedetta lista, come ti possono chiamare fra un mese, ti possono chiamare fra tre. Certo, e io non so quando mi chiamano per chiedere le figlie, se no le avrei chiesto le figlie, avrei chiesto 2 settimane di ferie, ma avrei fatto i ferie così tappavo la bocca. Infatti, a meno che non provi a informarti da questa gente qui, se possibile, spiegandogli la tua situazione, magari si possono mettere a fianco al tuo nominativo un appunto, no? Dovendo capitare che sei nella lista, che ne so, tra una settimana, essere chiamato magari 4-5, cioè avvisato, non chiamato, 4-5 giorni prima, in maniera che ti possa organizzare anche tu. Infatti, quello che stavo dicendo, che prima era diverso, perché quando c'era l'altro dottore che mi ha operato l'altro occhio, facevi i controlli e le visite il giorno prima, ti mandavano a casa, poi in the hospital facevi l'operazione il giorno dopo, quindi in 2 giorni concludevi tutto. Poi vabbè, ti facevi le cure a casa, gli antibiotici a quella data ora, eccetera eccetera, però la cosa la concludevi così, non ti ricoveravano nemmeno la policlinica, oltre invece alle cliniche ti ricoverano proprio. Certo, lì le cliniche universitarie funziona così. Chissà loro che magari che prassi adottano, perché effettivamente essendo un day hospital è più convenevole a loro e diciamo e al paziente stesso, perché cioè, non hai anche il trauma di stare lì ricoverato e tutte quelle storie lì, mi hai capito? Cioè in pratica lì, facendo come facevano al policlinico, fai una toccata e una fuga, diciamo, dai. Tu pensa che dopo l'operazione me ne sono andato a piedi e ho fatto da via d'Italia sino a casa. Perché? Perché non mi sono portato né borsello né cellulare, perché mi hanno sconsigliato assolutamente una amica di portarlo, perché dice che molte volte li hanno rubati dagli stipendi, quando ti cambi entrano e rubano. Adesso chi sia o chi non sia non si sa, però l'hanno fatto, quindi io non mi sono portato nulla. Mi è venuta l'idea, perché io non sapevo a che era uscivo, mia moglie mi ha detto chiamami quando esci, e invece io non ci ho pensato che non ci avevo il cellulare né nulla, e allora mi sono incamminato e stavo anche più avvicinando, non ricordo ancora, dopo l'operazione mi sono incamminato e sono arrivato sino a casa B. Figurati, nel coraggio cade comunque. E non c'era qualcuno lì, una telefonata, un qualcosa, perché sai, cavolo, da lì a casa tua è un bello strappo, nonostante tutto. Giuseppe, tu non conosci il mio carattere, ma io, pur di non disturbare, faccio tutto da solo. Non mi dà molto fastidio interpretare interpellare gente magari che non conosci o cosa, non sono fatto così. C'è gente che ci ha faccia apposta, magari dice non è che mi dà un passare, io quello lì non lo faccio. Non è questione di vergogna, è questione di principio, non lo so, sono fatto in una maniera particolare. Allora abbiamo grosso modo lo stesso carattere, dai. Io mi ricordo quando fumavo, capitava che magari rimanevo senza, ma non mi dava nessun peso non fumare, anche se magari quel tantino di voglia ti veniva, no? Però mai che abbia chiesto una sigaretta a nessuno. Manco io. E poi magari fumava davanti a te, non te la offriva, quello che ti dava crepe era preso. Infatti, quando ce ne avevo in tasca le sigarette, tutti facevano il giro, no? Quando magari aspettavi il momento di dire, cavolo, ancora non posso avvicinarmi a prendere le sigarette, come capitava anche giù in stabilimento, no? Tutti fumando alla grande, come, ma allora, ma vaffanculo. Yeah. Una volta mi ricordo che c'era uno in Piazza d'Italia che chiedeva sigarette a tutti, quello si faceva i pacchetti così, no? Di diverse marche, così le fumava tutti i tipi. Un giorno, eravamo io a questo amico mio, e mi fa, ma ce l'ha una sigaretta? Sì, ce l'ho, però non te la do. E perché? Perché non te la voglio dare. Cazzo, figurati tu, a razza di bordata che gli è arrivata quello. Anch'io comunque ne ho conosciuto gente così, che le sigarette se le faceva così, e i soldi delle sigarette se li mangiava. Ma c'è tanta gente che vede espedienti. Io conosco gente che prende due stipendi, uno stipendio se lo usa, l'altro se lo mette da parte, e poi bussa le porte a casa degli altri a chiedere pelati, pasta, quello, quell'altro, bicchiere detersivo. Non capisco come si faccia a vivere così. Ma io con la gente lì li ho sempre definiti dei parassiti, perché ti si attaccano e ti succhiano il sangue. Però ti sei dimenticato la cosa più importante, quando ti bussano la porta con il filtro della caffettiera, quella grande, non quella piccolina, no? Se glielo puoi riempire di caffè. Allora mamma ne aveva una di fronte a casa sua, cioè di fronte a casa. E questa mandava il figlio, ha detto mamma se c'è un pacco di pasta che tu conoscete che la compra, va bene, figlia mamma non me la dava, tu rivedi il ritorno, un cavolo, me l'ho fatta la portata, niente, è un pacco di pasta, è un coso di pelati, che si è dimenticato di comprare, basilica, prezzemolo, un giorno mamma ha detto, ascolta, dice a tua madre che il negozio alimentare è giù, non è qui, dal giorno non si è più provata. Ma è normale, perché poi, poi si offendono e non ti salutano più, perché funziona così, no? Cioè non è che sei tu che ti devi ritenere offeso, sono loro che si offendono, perché sembra quasi che, cioè gli stai facendo un torto, mi hai capito, è a dire, oh cavolo, quasi quasi allora ti sto disturbando. Certo, mi stai disturbando. Stai disturbando perché io non sono mai andato, guarda, io ti posso dire una cosa, ma con molta tranquillità. La casa me la sto ancora pagando e problemi non ne ho, perché ne uscirò anche da questa situazione qui. Però la roba che ho qui a casa e i piatti dove sto mangiando sono stati comprati da sottoscritto, non sono andato a bussare le porte a nessuno per comprarmi due piatti, per risparmiare, prestami questo, dammi quello o quell'altro, cioè ma stiamo scherzando, io guarda per il carattere che ho sarei capace di morire di fame qui dentro. Ma anche io sono fatto così, preferisco morire di fame piuttosto che andare a chiedere, no? Mi vergognerei, anche quelli che vanno alla Caritas, io porto la roba alla Caritas, no, porto la merce perché fanno i pacchi, le zucchero, uova, tutte queste cose qua. Ma la mattina quando vado mi dice sempre cerca di venire presto Gianni perché dobbiamo fare i pacchi e la gente aspetta. Vabbè, stamattina quando arrivo è tutto pieno di clienti. Io ho pensato, se dovessi io in questa situazione, ce la farei a venire a chiedere la roba? Io mi vergognerei, boh, tutti che si prendono giù butti usati, tutta la roba che c'è, roba da mangiare, ma non sai quanti ce ne sono. E poi c'è quello con i capelli lunghi e con la barba che poi quei giubbotti lì se li rivende in Piazza Pola. Cappa, con la barba con i capelli lunghi, l'ho visto anche io quello lì. E quello che mi ha colpito è che si è tolto un pacchetto di Marlboro dalla tasca, quello non l'ho potuto masticare. Lo so, viene anche qui alla chiesa del Sacro Cuore a prendersi la roba, no? Vestiario, quando c'è, poi metti quei due cavalletti vecchi che ha, mi si incrocia e ce la butta tutta lì su, e ho visto gente lì che stava scegliendo la roba, hai capito? Apprezza un po' come cosa tutto trova. È un casino. C'è sempre chi, io guarda, quando la davamo noi al Cison la roba che ci dava la CE, però dovevi pagare il prezzo dell'autotrasporto, e ci dava la CE, ci dava la roba, e praticamente il banco alimentare, dai. E davamo i pacchi, no? Se tu, quando noi davamo la Tedoce, che avevamo la sede della Tedoce, dove c'è la circoscrizione adesso, che c'è anche l'ufficio di collocamento lì, avevamo la sede, davamo i pacchi e se tu ti giravi 5 secondi ti rubavano quello che avevi. Ma ci credo perché li ho fatti anch'io quelle cose lì, raccolte alimentari, guarda cosa tutto, ma a gratis per me, benzina messa da me, organizzazione tutta organizzata, per file per segno, non prendevamo manco una lira, forse prendevamo anche calci in culo dalla gente quando andavamo a distribuirla la cosa. Però io mi sono reso conto di una cosa, che la maggior parte della roba va a gente che non ne ha bisogno. Infatti, gente che ne approfitta della situazione. Avanti, chi chiama? Boh, ho sentito qualcuno sovramodulando. Giuseppe, è così, è proprio così. C'è gente magari che non ne ha bisogno e va lo stesso a prendersela la roba. Tu pensa che quando avanzava roba, magari ti avanzava formaggio, mortadella, roba così che avanzava, preferivamo darla a chi ne aveva bisogno, piuttosto che dire ce la dividiamo tra noi, ce la mangiamo quattro o tre volte, sai, fai notturna, cose del genere, e qualche cosa ci passa, però preferivamo portarla anche a chi aveva preso già altri pacchi, magari un anziano che ne aveva più bisogno e cosa, e la riportavamo a quella che avanzava. Lo so, tu figurati che non so se ti ricordi la prima guerra che c'è stata in Iraq, sarà cose forse una decina d'anni fa se non di più. Allora qui dalla chiesa che ho qui di fronte a me sono partiti due camion che abbiamo organizzato noi, ma due bei camion pieni di roba perché ci avevano richiesto soprattutto guanti sterili in lattice per poter operare, per poter assistere gente, e roba soprattutto per igiene intima delle donne, dai cerotti al abbiamo riempito, guarda, ogni benedio quei camion, tutto quello che si poteva mandare, guarda, avevo le dita consumate a forza di incerofanare pacchi, chiudere, sistemare, andare nei negozi e caricarmi la macchina all'inverosimile, riscaricarla, cioè giorno e notte ripartendo, andando e tornando. Quelle, vedi, magari vedo le cose più ben fatte, però fatte come le fanno adesso in chiesa non ci credo più. Io dico, quando mia moglie dice diamo l'offerta, questo e quell'altro, sì, la diamo, però dico, dove andranno a finire questi soldi? Andranno a finire veramente a questa gente che ha bisogno? O si bloccheranno in tasca di qualcuno? Le offerte che fai in chiesa? in genere se le sfruttano loro per mettersi benzina e quanto c'è, anche perché io qui credevo in qualcosa fin quando c'era Don Tore, che con Don Tore ne abbiamo combinato di coppie di crude qui. Da quando si sono accorti che Don Tore stava facendo le cose per bene, l'hanno mandato via. Ma non tanca, non c'è più. Già era ora che ce lo buttassero in pensione, era ora. Perché? Guarda, troppo pesante, troppo polemico, anche per quella storia là dell'Iraq, che l'avevo combinata con lui. Però, cioè, prima di fare muovere una cosa, Don Tanca, cioè, se una persona stava morendo, tranquillo che insieme a quello ne morivano altri due. Io Don Tanca l'ho preso in chiesa quando si è sentito male, lo sai. Fa tutto, mi pare che avuto mezzo ictus. Sì, sono entrato io con la barella in chiesa a prenderlo, stavo celebrando la messa quando è successo. Sì, lo so, e gli è andata bene. Portati io con l'ambulanza all'ospedale. Avanti, Pierpa. Io mi sono di nuovo qua, mi sono preso un po' adesso. Gava, e vedi come ce li hai. Mi fanno male, il piede sinistro mi fa male. Lì può averti bloccato la circolazione, va a farti vedere. Associazione, stavamo qui al Sacro Cuore quando c'era Don Tore, ma ne abbiamo combinato di cotte di crude sempre diciamo nel bene, no? della collettività o della comunità, chiamiamola come vogliamo. Associazione vera e propria no, perché non avevamo un coso ben preciso, però ci siamo saputi muovere forse anche meglio delle associazioni, adesso mi scappa il nome, no, ufficiali. Avevate delle idee per proporre degli aiuti a chi serviva, no? Ecco. Non pure non l'ho conosciuto. Guarda, io ce l'ho quando c'era dottor Piga. Quando c'era dottor Piga, io l'ho visto anche seppellire a dottor Piga. Sono stato uno dei pochi che ha partecipato al seppellimento. Figurati. No, io Don Tore l'ho conosciuto bene, anche perché sempre per opera di bene lui aveva sempre in mente di sistemare lì nel cortile del Sacro Cuore il coso di pallacanestro, perché quando c'era Don Tore quella chiesa era sempre piena di ragazzi, cioè di gioventù, mi hai capito? Proprio lo cercavano, si divertivano, e anche lui mi aveva detto: non abbiamo i soldi per i padelloni delle cose, per rimbalzare la palla, no, per fare canestro. E anche gli avevo detto: posso chiedere giù in stabilimento magari qualche lastra, magari appena difettosa, ecco. No? Beh, tanto fatto che ero riuscito a procurargli anche i tabelloni per sistemare il campo di pallacanestro, ma lì ne abbiamo, ti ripeto, combinate di cotti e di crude, ma cosa tutto non abbiamo fatto, portata tanta di quella gente. Tu devi vedere la chiesa del Sacro Cuore, la gente fuori ascoltando la messa già quando c'era Don Tore. Cavagava, è buono. Guarda, io lì al Sacro Cuore, tu adesso, però io fatto da quando ero piccolo, ho fatto il lupetto, lo scout, anzi ho cominciato a fare il chierichetto, tu ho fatto il lupetto, lo scout, l'esploratore, quando era ancora Sassari 1 lì a Sacro Cuore, e ho sempre praticato molto lì in chiesa, quando ero ragazzino ho partecipato a gite, ho partecipato a campi di scout, insomma ero molto attivo in quella zona lì. Poi da quando ho cominciato a entrare un po' di delinquenza in quella zona, ho mollato e me ne sono salito in piazza, ho frequentato con un mio compagno di scuola, ci abbiamo fatto la greffa, ragazzi e ragazze, e poi da lì mi sono allontanato, perché ho visto una cosa che mi ha lasciato stupito proprio. Una volta ci ha avvicinato un uomo a piedi, un uomo di una certa età, sui 60 anni, c'erano degli amici miei in Vespa, e questo uomo ha detto: guarda, mi hanno rubato una Vespa, mi hanno detto che sta circolando al Sacro Cuore, questo qui, questo che io ritenevo un amico, gli ha detto: ma è tipo questa? E sì, però di diverso colore, è rossa, è uguale a questa, lo stesso modello, però è rossa. È nuova, nuova, nuova, se me la buscate vi do 150.000 lire. Beh, chiediamo. Quando se n'è andato, che lui si è messo tutti a ridere, e era proprio la sua, non l'aveva riconosciuta, l'avevano verniciata, erano staccata. Da quel momento lì io ho perso tutti i contatti con Sacro Cuore. Mi avvaura. Metto mi avvaura. No, no, è vero Massimiliano, come è vero che sono su questa terra, io te lo posso giurare. Quello lì mi ha chiesto se ritrovava la morte della ragione, io gli so. Ehi, dai, era una battuta per entrare già. Ehi, ehi, ciao Massimiliano, comunque mi hai sentito, dai. Hai capito Giuseppe? Funziona così, ma in tutti i posti, bene o male, ci sono sempre stati buoni e ci sono stati cattivi, e tuttora funzionerà così e funzionerà così per altri mille anni, già non c'è niente da fare. Massimiliano è rientrato e ti passo Vera 1 ed è in modulazione. Avanti Massimiliano per Vera. Dai, buonasera a tutti, ciao Radio Vera, ciao Gianni, ciao Giuseppe, ciao Antonio e poi non so chi c'è ancora in volta, dai. Avanti è Vera. Ciao Massimiliano, ben sentito, dai. Avanti Antonio. Ciao Massimiliano, ben sentito. Da Radio Rogero, dai. Mi sono intanto per salutarle, c'avevo un po' le cuffie nell'orecchio. Stavamo cenando e stavo ascoltando, perché io faccio Alice di Bocco, un fisso. A te ne mancano quelle cuffie, ricordo a me se ne va la modulare che si sposta. No, io posso girare tutta la casa tranquillamente con le cuffie nell'orecchio e ascolto tranquillamente. Addirittura scendo le scale, vado giù a prendere qualcosina in macchina e ascolto ancora, capito? C'ha intorno alla quindicina di metri di distanza. No, non vanno via la modulazione. No, ma come vai a modulare? Ti va via la voce? Sì, si usa la 48, sì, si usa questo no. Invece io se non so questo o l'altro se ne va via. Però se ne usi un altro che non è né quello né l'altro ti rimane. Fate il conto, io adesso sono in cuffia, adesso lo sento a capo, così, via wireless, e stanno andando alla grande. Allora sono riusciti prima, mai. No, ti ripeto, Pierpa, se tu lo usi con un baracchino che è amplificato, va via, capito? Se io lo uso con la 48, come schiaccio la portante, va via la modulazione. Con questo invece no. Scusate, bianco per me 5 minuti. Dai Giuseppe. Oh già, ti ho chiesto l'amicizia su Facebook, se mi fai entrare. Io già ti faccio entrare, ma non sono entrato io ancora. L'hanno loro il computer, come cacchio faccio entrare Massimiliano? Io se entro al computer è tanto, anche se non tratta la mia figlia e mia moglie. Dai, vabbè, non c'è problema. Mi ha dato l'amicizia a Coso, Rita, stasera, Luca, Natalaus, e tutti eravamo la banda. Vagano. Ho visto quale sera che hai messo per pa. L'hai visto? Gappa gappa, ho visto anche il coso, il Typhoon 2. Dal letto non si vede per parte. tutto Sarrandi, Rocchi, ha baciato Sarrandi tutto e moglie non ve conte. Ah, tutti mattina, guarda, è già. Eh? Alzati a vedere come è. Aspetta. E qua sta facendo, Ma a me non mi interessa, perché anche San Bello, faccio un cazzo, non quelli beatino. No, per il momento no. No, non sta facendo, e qua invece sta facendo, va. Non tanto, ma comunque io le due macchine che c'ho giù sono bianche. Come sono bianche? Le hai cambiato colore? Da blu sono diventate bianche, sono piene di neve. Allora le macchine sono tutte bianche, in terra non è attecchite, non stava ficcando. E qua invece già sta iniziando a fare, capito? Per quello che te l'ho chiesto. Le due macchine che c'ho giù sono tutte bianche lo stesso. Comunque già stanotte si è abbassata la temperatura, lo vedi come ti fazzi, uia, ghiaccia burro, speriamo di no, ma ho l'impressione che c'erano 0 gradi, arrivati al bivio dell'incrocio della morte c'erano 0 gradi. Grazie, infatti lo porto. Qui saremo 2 gradi, forse anche qualcosina di meno. Infatti, mi sono coinvolgendo io qui fuori. Gradi, c'era mezzo grado, c'era, non c'era manco un grado quando se l'avevo fatto io. Vabbè, ma adesso ce n'è di più, stasera ha fatto più freddo, già, perché io lo sento l'acqua, tanto io adesso, vabbè, io che mi sono congelente, sono entrato per salutarvi oggi. No, io ce l'avevo la postazione in veranda, l'ho tolta, perché c'avevo la postazione, c'avevo l'antenna sopra la cosa, la ringhiera, ho fatto un buco, la bulonata lì con una staffa, avevo la ringhiera, l'antenna lì e modulavo da lì. L'estate per la gara, davvero per avrei detto, boh, smantelliamo tutti noi. Attenzione. Avanti. Sì, sono rientrato e vi posso comunicare che nella mia modestissima postazione meteo segna in questo momento 0 gradi. Figurati, figurati. Sì, siamo quelli vedi lì perché quando sono arrivato c'erano 0,5. Siamo abituati a stare intorno ai 12, 13, 15, cioè queste sono sfuriate che ci lasciano anche un attimino a bocca aperta. Giuseppe, qua allora sarà almeno uno. Comunque non è un freddo umido, è un freddo secco, capito? Non fa tanto male questo freddo. È più pericoloso quello umido che ti penetra nelle ossa. No, ma diciamo che poi di notte abbassa la temperatura, non sale, è difficile assimilare che salga di notte. No, di notte scende già, non è che sale. Infatti per quello io confronto a voi qua sono in un buco e qua non devo essere a meno uno. Cazzo, mi sei secca di ragugliù però. No, ma ti ripeto te con sciupito. Tranquilli che secondo zio Giuseppe noi scendiamo anche a meno 3, meno 4 stanotte. Mi ha creato sorriso come se tu sei, io ce l'ho giunto di notte con le nuove, per di cui di affronzione con il piede, e poi sono venuto con il piede. Ma c'è stata una sovrapopolazione, Massimiliano. Siete tutti ingrugliolati. Tutti hanno la morte, ce li ho là. Beh, ragazzoni, dai, vi saluto perché cazzo mi sto congelando io qui fuori. Vi saluto tutti quanti cordialmente. Buonanotte a tutti, buon 144, passo QVT per causa letto. Cava, cava. Buon 144, allora, assicuriamo quando lo farai. E buon tutto, Avanti, Antonio. Ciao Massimiliano, ci risentiamo domani. Ciao Massimiliano, ce la riascoltiamo, dai. Ciao Massimiliano, ce la ascoltiamo domani, dai. Buonanotte e buon tutto. E io ho fra 10 minuti già mi metto in pole position per la prossima uscita, visto che siamo reduci da una levataccia, mannaggia. Cos'è? Avanti. Adesso ho pensato una cosa, Campi 2 non c'è perché stanno suonando in un locale a Muros, ci aveva invitato anche a noi, ti ricordi? Ma ho l'impressione che stia suonando male oggi Gianni Capri 2. Infatti, sarà in paranoia per quello che gli è successo. Ma guarda, io sono riuscito a beccarlo da appena a Bossacargia, ma l'ho preso così al volo perché stavo cercando, ero sempre dal 5 al 21, ma ha dato una scuriata oggi al baracchino, guarda che non lo stavo manco riconoscendo. Cosa succedono queste cose, rompe un bar. Diciamo che era non incazzato, no, era indemoniato perso, ho provato anche a parlarci, però no, ma speriamo di no, perché l'idea sua è quella, e poi io delle cose me ne ero completamente dimenticato di questa favata o cose che stiano facendo, perché guarda, oggi è giovedì, loro lo chiamano giovedì grasso, però per me è un giovedì come tanti altri oggi, quando te ne alzi, io già alle 4 di mattina e ne rientri la sera che sono le 7, non stai pensando né sei magro né grasso come giovedì. Sì, ero grido. No, magari con Pierpaolo se fosse stata un'altra serata, nel senso che lui avesse finito prima di lavorare tutto quanto, una scappata ce l'avremmo fatta, ma magari trattenendoci sino alle 11 là e poi tornando, tanto bene o male si fa sempre l'una, mezzanotte e mezzo prima di andare a letto. Caso beati voi, io se devo uscire la mattina no, perché tanto ti alzi, mi alzo suonato io già. Io più tardi vado a letto e prima mi alzo, te ne immagini, una cosa contraria, ma è così. Allora, se per dire a volte il sabato facciamo tardi, che andiamo con mia moglie, con la famiglia, andiamo in qualche locale, roba del genere, e poi la domenica mattina mi alzo presto lo stesso. Andrà bene. E tu Pierpa? E io che cosa? Non ho capito. E tu ti corichi tardi e ti alzi presto? Io c'era 1:30 e 2. Cavolo, tardissimo, mamma mia. Sì, io dormo 2 ore e 1:30 per notte e basta. Aspetta, anche Rita è arrivata, è qua su Facebook. Vai. Tu, Giuseppe, non ti metti su Facebook, ci picca a passare, Ma guarda, a dirti la verità, l'ho acceso l'altro giorno il computer così, tanto per farlo scaldare una mezz'oretta, Pierpa, perché già ce l'ho qui sotto, mi costerebbe poco anche tirarlo fuori e accenderlo, però bisogna che mi trovi di buona lena, perché o fai una cosa o fai l'altra. Io mi faccio tante cose assieme, mi sto sempre al cogliolo avanti, mi faccio tante cose assieme. E magari col microfono da tavolo viene anche meglio, ma con questo che lo devi stare ogni tanto e chi c'ha i subumponi che va per rispondere, o hai le mani nel computer o da un'altra parte. Ma non è da tavolo questo, è un microfono normalissimo. Normale questo, no, io rispondo anche, allora io qua faccio 10 cose assieme, io le faccio tranquillamente, non mi viene a me lo stesso. Anda bene Mera, avanti Mastro Bombolo. Sono servito anch'io Facebook. questo è un Facebook un po' diverso dagli altri. Siamo quasi tutti noi. Ah, sì, così va bene. Sì, così va bene, perché per quell'altro Facebook bisogna troppi chiarimenti, troppe cose, non, vanno bene i ragazzini, quelle secondo me, modestissimo parere, attenzione, senza nessuna offesa per nessuno, però in quell'altro troppi casini, troppe cose, troppe storie, troppi chiarimenti, e io in genere penso sempre a rimanerne al di fuori di quelle cose lì. Giuseppe? Sì, mi dica. Guarda, non so se si trasporta questa cosa. Sono a parlare, chi era? Questo qua in pratica è Franco Pomeran, quello che fa, quello che fa in questi apparati. Se lo vedi è un ora 48, è tutto blu, fatto da lui, è tutto blu quando sta in tramvai. Come va a modulare diventa rosso, è una cosa speciale, faccio una modulazione. Magari sarà un professionista questo. Fa lui questi qua. Questi qua li fa lui. C'è anche l'S9. È un mostro questo S9. Madonna. E quest'altro però è fatto da coso. Da come si chiama? Da questo tigre. È una cosa veramente bestiale. C'è una modulazione questo S9 già. Questo modificato, da una parte modificato e dall'altra no. E tutti li farò così l'S9, c'è anche Bombore così. Ah sì, sì, questo è l'S9. Ma siete distorta la voce, non si sente bene per panorità. Da giustizia per la registrazione, ma diciamo che se posso, se magari me lo concedono, poi entro a controllare a vedere. Quello lì deve essere sito www.grandimodulatori.it oppure su YouTube cerchi apparati modificati e ti dà quelle cose. No, tu metti su YouTube, metti semplicemente così, fanno una 48 modificati, entri da tutti. E anch'io lo cercavo così, e metteva la 48 modificati e trovavo anch'io così. O apparecchi modificati, ti dava tutti i tipi di apparecchi. Sì, sì, l'ho già visto quelli lì. C'è anche Follia elettronica, che bello l'apparato. Follia elettronica stesso, sì. Ce ne sono di Follia elettronica. Lavorano molto bene. Quelli fanno solo modifiche. Lo so che però sono modifiche. Però lavorano molto bene. Quel baracchino l'ho visto vibrando mentre parlava. C'era qualcuno che voleva entrare, avanti. Buonasera, sono rientrato per qualche bite, va. Niente, da. Ciao Pierpa, ben entrato, ben sentito, mi dispiace che hai avuto problemi. Vabbè, buonasera Mario, ben sentito, e vabbè. Già, sta passando, vai. Già passerà. Oh, ci è successo di tutto. Mamma mia, sono un po' se ponete la musica. Di andare anche a casa sua e avere un televisore, hai visto quante questo mobile, però loro vanno lì, capito? Cioè, in mezzo a tanti poveri, in mezzo a tanti disgraziati, pensionati, di quelli che pigliano 300 euro al mese, che non verrebbero a pagarsi manco l'affitto, in mezzo a quelli lì, purtroppo ci sono anche furbi. Bisogna anche considerare che magari uno ha sempre vissuto dignitosamente, ma il colpo si trova senza lavoro e arriva in questa situazione, magari la roba che va costruita già da prima, anche quello può essere maggiore. Il fatto che magari uno col lavoro stava bene, si comprava le cose, poi di colpo l'italiano lo stipendio di colpo e si trova senza una lira. E allora è costretto a venire lì a chiedere da mangiare. Anche quello può succedere. Sì, capo, ma io ne conosco tanti, perché purtroppo ci sono in mezzo, ma conosco io e li vedo che vanno a lavorare e mandano le mogli, capito? Cioè tu a me mi ricordi, non ciaffono, tu mi ricordi le mogli a pancia, perché quando io lo vedo, perché se no che dico, poveraccio, ha perso lavoro, c'ha figli, c'ha questo, c'ha quello, sono il primo cazzo che mi dispiace, però che tu vai a lavorare, cioè, alla fine pigli soldi dal comune, perché vai a farti dare il minimo reddito, lavori in nero e pigli un altro stipendio, tu mandi anche tua moglie a pigliare la roba, cazzo, quello mi rompe le scatole, perché, cioè, io non dico che uno può avere la disgrazia che lavorando perde lavoro, c'ha famiglia da mantenere, va bene, ma in vedi a tutta la gente che ti vuoi, ma vedi a tutta la gente che non hai un'idea, però purtroppo non gli puoi dire niente, perché, hai capito, non puoi andare a chiedere la carta d'identità ogni volta, non puoi andare a casa sua a controllare, a fare, capito? Non sei un investigatore per poter fare queste cose qui, però in mezzo a tanti disgraziati che ci sono anche i furbi. E a voi ci sono, sempre ci sono stati e sempre ci saranno i furbi, tutte le cose, come c'è quello che non fa la fila, che se ne passa avanti quando sta facendo la fila dice che c'è lui, insomma ci sono tanti tipi di persone furbe, ma Mario, sai cosa ti dico, diciamo che ognuno sa quello che ha dentro. Quello che ha detto toglie fuori, io dico sempre quello, se uno ha sentimenti verso gli altri queste cose lo dovrebbe fare, perché ci potrebbe essere una persona più bisognosa di lui e non gli viene dato il pasto proprio perché magari al posto suo se la prende lui e non ne ha bisogno. Va bene, detto questo, detto tutto, va, facciamo girare a Vela 1. Da uno. Già c'è questa ragione, già è così, è vero. C'è chi ha troppo e più ne vuole, e c'è chi non ha niente e non va tutta. Ma io sai, cioè queste fesserie non le guardo mai perché a fine dei conti non me ne frega niente, non voglio essere manco io a dover dire cose. Quello che mi ha dato più fastidio, guarda, io ho 57 anni e non avevo mai sentito dire che una persona per dignità, per orgoglio, senza moce di fame e non che per tanta niente che sto mangiando a quattro ganasci, mi dà un fastidio quello lì solo, che quella persona lì se ne è morta di fame in silenzio. E non ha chiesto niente a nessuno per orgoglio e per tanta niente che mangia quattro ganasci e può mangiare otto ganasci, solo quello mi dà fastidio, guarda. È vero, purtroppo accade anche questo, perché lo so, non è che ne ho visto tante di queste cose, però purtroppo ci sono le persone che non si conoscono più. Gappa. Chi c'era rimasto? Giuseppe, ritornato, sì. Sì, sì. signore, eccomi qui. No, l'hanno messo in croce, lui non si mette in croce, chiamaci solo per nome, va benissimo. Oh Mario, più in croce di Gesù che si voglia di nomi, mamma mia. Gatta, gatta. E così è, ma vediamo la vita come viene, sorridiamogli e diciamo grazie quando ci svegliamo la mattina e buh, un riso, c'è una continuità. Ebbè, Costello, guarda, ti posso dare ragione, parole sante quelle che hai detto tu in questo momento. Ciò non toglie comunque che il buon Giuseppe ha imparato a fare una cosa, che se devo aiutare una persona gliela do io di persona la cosa. Fare più donazioni così a vanvera non mi posso più, perché vanno alla gente che non ne ha bisogno, che sia soldi, che roba da mangiare, che vestiario. Non è vero Giuseppe, non è vero, godono tutti, i poveri godono tutti, perlomeno quelli che hanno il coraggio di presentarsi, perché ti posso dire anche una cosa, ci sono poveri che ne hanno talmente vergogna o per orgoglio, cosa che un medibussi, tre figli li guarda, siamo nel 2010 oggi. Se ti dico quello che ho visto ti viene il vomito, hai capito? Perché io un giorno stavo lavorando col comune, cioè un giorno, esattamente 2 anni fa, stavo passando per caso in via Lamello, in via Mendola, hai visto che proprio sotto il semaforo appena appena spostato c'è il secchio della Mondezza. Beh, è passato questo, ha visto mezzo tramezzino, sta entrando una mano, ne l'ha bucato, ma più veloce della iatta, ha costruito dei bucconi, ha pulito i mozzichini, i trombetti. Ma ti pare che nel 2010 deve esistere ancora gente che va a raccogliere la mondezza, mangiare da dentro la mondezza, ma finiamola. Solo che purtroppo ci sono quelli che ne hanno vergogna e ci sono quelli che sono stati. Poi ci sono i furbi, che quelli lì sono da pigliare, cavolo, e da mettere al muro, perché ne stai rubando un pezzettino di pane a quello che ne ha veramente più bisogno di te. Tutto lì. Io l'ho visto uno in carrera lunga, ma niente, la bassa asciutta la lunga sono io. Guarda, ti giuro Gianni, io in 57 anni non ne avevo mai visto, però ti posso dire, guarda, quello che sto vedendo in questi ultimi anni è una cosa, guarda, che io metterei al posto di quel poveraccio in questi parlamentari. Ma mia moglie addirittura si è messa a gridare, era in macchina con me, mi ha detto, mamma mia, cosa ho visto, cosa hai visto? Mi gira per questo qua, aggrappato al coso del cassonetto e mangiato si la pasta asciutta. Poverini, noi guarda, a confronto a quella gente lì, siamo dei grandi signori, ma loro è gente veramente che non ha bisogno, e un medico mi ha nella vergogna da domandare che cosa, rifiuti da quelli lì da dentro al cassone, la mondezza, io. Sì, perché molta gente ha sempre visto con dignità e vedersi così magari non lo sopporta, non riesce a vivere diversamente, capito? Anche perché uno si sente importante, quando tu hai lavoro ti senti, a me me lo fa anche dopo che finisco le ferie, oppure quando, adesso dopo che sono tornato all'infortunio, mi sentivo sollevato a mio agio, proprio lavorando, mi mobilita l'uomo il lavoro, c'è poco da fare. Chi è che vuole entrare? Guardone, sono. Dici puro, se combinai qualche cosa, se ne muovono tre, se ne sono burocrati, se dice. Chi ha che bagnare i bisogni a volontà? Infatti molti di questi quando si trovano così disperati, combinano qualche cosa proprio per entrarsi dentro, e cammino hanno un po' caldo, mangiano e bevono. Ma la libertà, quello che c'è, la libertà è tanto. Bene signori, a proposito di libertà, io mi libero da voi in questo preciso istante. Auguro a tutti la più cordiale e serena buonanotte, un buon inizio di giornata per domani e ci sentiamo presto, dai. E un saluto a tutti i circolari. Ciao Giuseppe, ci sentiamo, dai, buonanotte, buon lavoro per domani, dai. Avanti Mario. Ciao Giuseppe, buonanotte, buon pomeriggio, buon tutto, e ce la risentiamo domani mattina se coincide, se no tutta la prossima. KK, dove vai Antonio? Allora, ciao Giuseppe, buonanotte, buon tutto, ce la risentiamo domani alle prossime, ciao ciao. Ciao Giuseppe, buonanotte, buon lavoro per domani, ce la risentiamo alle prossime. Sì, non riprende nessuno. Lo riprendo io il microfono in mano. E cappa, stavamo appunto parlando di quella roba lì, ma c'è molta miseria in giro Mario, da quando stanno licenziando, facendo, è ritornata una miseria incredibile. Te ne accorgi dal fatturato, te ne accorgi da tante cose. La gente che vede nei negozi è sempre meno, un po' tutto, te ne accorgi un po' da tutto, perché naturalmente è tutta una cantera, se licenziano uno, quello lì non ci va più a fare la spesa tutti i giorni, compra solo il necessario, quando c'è anche i soldi. Beh, è capo di positivo, no, già è così, solamente che io dico sempre che per colpa di uno non è che ti puoi tirare indietro, perché quegli altri 10 che ci saranno, capito, però purtroppo è così, ma si vede da tante cose comunque, io vedo tante cose, che qui ci sono tanti ragazzi, io li vedo, ma ci sono tantissimi ragazzi che sono tutti allo sbando, perché nessuno c'ha, o perché non è voluto andare a scuola e qualcuno non c'ha manco la terza media, ce ne sono tanti che sono fatti e lasciati, capito? E lì si fate di sempre in carriera, ho capito, vicini bisogni. Ma Don Gaffino so che se ne attira molti, ci ho visto che c'è un bel teatro, sai, sono andato a vedere la corrida, mi è piaciuta molto da Don Gaffino. Don Gaffino sta sempre cercando di organizzare cose per questi ragazzi, perché cioè Don Gaffino lo sa la piaga che c'è qua, capito, non è che non lo sappia, perché purtroppo ci sono ragazzi, allora ci sono i genitori che vanno a lavorare, tu li vedi allora da quando si alzano la mattina, stanno tutto il giorno in giro, ma molte volte stanno anche sino a tardi, e questi ragazzi purtroppo molti, ce ne sono molti che stanno spacciando, ce ne sono molti che si stanno drogando, perché arrivano solamente a quello lì. Vabbè. Si sentono forse trascurati dalla famiglia, non lo so, anche quello vuol dire, i ragazzi vogliono seguirti, non è che li puoi mollare così e andartene a lavorare, c'è poco da fare, no, quello vogliono seguirti entrambi i genitori, ma soprattutto da quello che è più presente, se uno dei genitori non lavora deve anche seguire i figli. Tu pensa che io con mia moglie a volte usciamo per controllare a Manuela dove va e dove non va. Lei non sa nulla, noi controlliamo, la vediamo tranquilla, la vediamo con le amiche e cose, e ci ridurremo tranquilli a casa. Però nello stesso tempo la seguiamo, anche se lei non lo sa, però io preferisco vedere con chi va e con chi non va. Capo di positivo, quello deve fare chiunque genitore, no, ma qui cioè io molte volte assisto delle scene un po' allucinanti, infatti molte volte dico, cazzo, se io dovessi pensare una telecamera sul tetto e farla funzionare a telecomando, no, o gli arrivi da glielo un film, perché allora ci sono le mamme che una volta che il padre esce per andare a lavorare fa alzare i ragazzi e li butta fuori praticamente, io per i divini che ci devo a pulizia li fa alzare, quelli là si vedono dove vanno, vanno giù e stanno buttati giù. La madre è tutta tranquilla, va, fa tutta parte di pulizia, le cose, e prepara a mangiare. Però questi ragazzi sono sempre gli ossi, sono sempre grigi, sono sempre abbandonati a Eddie Matesse, capito? Tante volte è anche l'ignoranza che fa fare queste cose, perché se uno ci pensa poco a poco, devono essere ritirati praticamente nel bobo di fa. Io a mia figlia, adesso che ha 17 anni, un po' di libertà in più ce l'ho data, però è sempre, sappiamo sempre dove va, con chi va e via dicendo. E per Paolo già lo sa, a quell'ora lì io vado, la ritiro, non la lascio mai venire anche con gli amici e cose perché ho paura. Tratta di positivo già, e io perché da quando è morta lì sono solo, me lo sono cresciuto, quando non gli potevo stare dietro l'ho mandato dai salesiani e la sera andavo e me lo pigliavo e me lo portavo a casa e tutte quante queste belle cose e niente, cioè non è che l'ho lasciato mai abbandonato a se stesso, capito? Anche se io mi dovevo fare quasi in quattro perché dovevo accompagnare lui la mattina, oppure accompagnarlo a scuola, poi andare a lavoro, quando uscivo da lavoro dovevo, capito? E molte volte mi sono trovato non in difficoltà, no, di più, però per lui mi sono sempre mosso alla grande, cioè non è che la giudagliate mai così. Sì, ma dopo già si vede che un ragazzo posato, non è di chissà di carriera, dice di zitto, ma guarda la mica giù e coso, ma già si vede che è un ragazzo tranquillo, Meno male, meno male, che almeno da quell'altro lì non mi ha dato mai grattagliati. E adesso che è maggiorenne, il sabato sera si trova con degli amici, se ne vanno a Plaghe, sa pigliare un cacca in brighiera, qualche cosa, però per il resto è sempre tranquillo. Sì, magari non l'ha fatto Mario di sicuro, tutti i canti da minore hanno infatti. Diciamo che è un po' a tutti, diciamo che un po' a quell'età lì c'è la mania dell'autodistruzione, si va a bere, bisogna stare molto attenti perché a quell'età lì circolano gli spiriti, tutto quanto, è quello che io ho paura, capito? Quando va a ballare o cose del genere, sempre con le cugine la mando, io non la mando mai sola, con le cugine la mando perché sono più grandi e so quello che fanno. Però sola non la mando mai, ho paura, perché c'è questo. Poi niente, ci facciamo un appuntamento, ci troviamo un appuntamento. Ma il positivo. Ma oggi, è così, tutto qua.